pienissimo. Pieno, ragazzi, pienissimo. Adesso non c'è nessuno, stiamo lavorando bene. Grazie per apprezzare il nostro vi lavoro. Vi diciamo già che venerdì 20, la prossima serata di Brutte Persone qua all'Ex Alge, quindi fra 10 giorni, noi andiamo a fare ancora meno spettatori. Sì, sì, quindi per favore state a casa la prossima volta. Spargete la voce. È la classica serata in cui i comici sono nettamente di più del pubblico pagante o non pagante. Eh beh, dai, al suo perché questa è bello, cosa. È bello, perché, ma è bello. Perché. Quindi a sto punto, signori, pensateci, se qualcuno di voi si vuole esibire stasera dal pubblico al momento opportuno, tanto non c'è nessuno Sonia, che... Sonia, vuoi esibirti? Sonia! Guarda, guarda come arrivano. Ma non stiamo iniziando, eh? Cinque minuti. Partiamo. Ma c'è un motivo, c'è un motivo. Andiamo a drogarci. No, no, allora... No, volevo fare i conti, quanti siamo? Ma chi sei tu? È Enrico Veronica. Ma certo che è lo so chi è. È il capitano della mia academy. No, no, col cazzo. Non mi sminuire, no, Enrico Veronica. Col cazzo che tu ti prendi Enrico nella tua academy. No, amico mio. Enrico! No, amico mio. Dai che ti ho dato la fascia di capitano. Ti ho mandato la fascia. Enrico, tu davvero... Dopo anni da cane sciolto stai firmando il conto, sei Cristiano Ronaldo dei comici. Te stai firmando per un campionato brutto dove si gioca malino, che non lo guarda nessuno. Ma c'è un bel clima. Sì. Vedi? Politico e climatico. Allora, a sto punto abbiamo iniziato, se noi adesso scendiamo abbiamo rovinato tutto, sì. Amico mio, sai ci che siamo fregati. Io te l'ho detto, prima che cazzo lo so, poi... non pensavo che tutti, cioè poi metà si esibiscono. Perché essendo quattro gatti... È vero. Beh, come va? Passato buone feste natalizie? Sì! Si passa da a sì. Chi è che ha detto Qualcuno al bancone può farmi un vino? Vedo che già parli molto bene. Grazie. Vedo che già... Non stai spiascicando, ma stai a tanto così. Ma sai... Da dove arrivi tu? Perché sei qua alle 10? Cosa hai fatto? Ma allora, io stavo camminando tranquillo. Poi ho visto un bar che recava la scritta svuota fusti. Stai scherzando? Quindi sono entrato... No, ma è vero o non scherzo? No, davvero. No, ti chiedo, non si sa mai con te. E quindi, niente, sono arrivato qua alle 10. Ma che è l'orario a cui vengo di solito? No, era per sapere cosa avessi fatto. Hai passato buone feste? La mia academy, che è ta tristissima lecchina che fa partire l'applauso verso il proprio capitano. Fate schifo voi due. Ci terrei a fare un applauso alla mia academy qui presente nelle vesti di Romualdo Grieco e Antonio Giuseppe Dante. Questi sono i miei uomini. E un applauso al vino e alla ragazza che porta il vino. Alla ragazza. Vuoi offenderlo, ragazza che ti chiama così? Ti trattano a pesci in faccia. Come ti permetti? Cos'è successo? T'ha detto coglione anche a bassa voce, ma è stata una delle risate. Però mi sa che l'ha detto. Forse la più grossa che otterremo stasera. Però mi sa che l'ha detto a te, coglione. A chi l'hai detto, scusa? Coglione. A chi? A me o Valerio? Grazie. Perfetto. Vabbè, comunque è importante essere ben voluti all'interno del locale. Assolutamente, tu proprio sei in questa posizione. Sei proprio il comico a cui ha detto cazzo quella volta cazzo che abbiamo detto di sì a Valerio per fare ste serate maledette. Hanno pure spostato l'omino con i baffi che di solito si metteva lì, adesso ci ha messo uno simpatico. C'è. E sai che sta tra l'altro quello che tu chiami l'omino con i baffi, così sempre con simpatia, ha detto che oggi è proprio incazzato. Ha proprio i coglioni girati. Ha detto. Vabbè, ma d'altronde le organi... Tanto un gran bel ragazzo. Tu l'hai trattato a pesci in faccia per 6 mesi. Sta a vedere che stasera è arrivata la volta che ti fa un culo così. Ma lui voleva esibirsi. Ma no, lui vuole fare un culo così a te. Di esibirsi non gli interessa. Non hai capito i suoi piani. Io rifiuto le botte. Sì. Perché sei un cagasotto. Nei miei confronti. Soprattutto. Allora... Chi è la prima sera che viene qua? Prima volta? Davvero la prima volta? Sì. Quattro persone. Ma te, voi... sei una comica. Te eri nel tavolo dei comici. Ah sì, con lei. Beh, sai. Ah, ecco. A sapere la multavamo che era al tavolo dei comici, non ci si può sedere lì, sono quelle cose. Calci quegli altri puro. Tre che hai portato tu, quello è giro tuo, è un'altra academy tua. Quello è un team di picchiatori pronto a intervenire nel momento in cui il baffo dovesse arrecarmi un danno. È il mio team di... Voglio dire una cosa sessista, ma un team di picchiatori, 3 persone, 2 sono donne. Sì, ma sanno il carattere. Infatti ho detto, la premessa è stata, non voglio dire una cosa sessista, che tra l'altro ho detto, però a sto punto... Ormai. Andrea Fadenti! Grazie Valerio Ero! Il terzo segreto di satira, sì. Impegno sociale e poi le uscite misogine, vergognati. Io sai che non ho neanche bisogno di presentarti male, perché farai tutto da solo. Grazie. Proprio farai tu, ti però... autoscaverai, farai... D'altronde ho fatto una carriera a impegnarmi a trovare questo metodo. E questo è arrivato il momento di rovinare tutto. Sai, non abbiamo fatto una scaletta perché noi dovevamo scendere dopo due noi minuti. Noi non sappiamo neanche chi si esibisce. No, io qualcuno a faccia lo riconosco, perché quando lo dicono a me io me lo ricordo, quando lo dicono a te nessuno se lo ricorda. E io lo dico a te. Sì, ma adesso me l'hai detto. Sì, sì, sì. Tanto è arrivata gente, io pensavo fosse qua a vedere lo spettacolo, poi ho capito che si stava per esibire. Vabbè, se... Mi scrivo i nomi? Vai! Enrico Veronica! Enrico Veronica! Se a un certo punto ci saremo dimenticati di far salire sul palco qualcuno, quel qualcuno alzi la mano e dica Iron Scaletta. Basta che vi ricordate della tua Academy. La tua Academy. L'Academy sale sicuro. C'è solo un dubbio. Se l'Academy concentrarla tutto in un blocco unico o comunque diversificare. Io ho questo dubbio. Sai che io sono per metterli tutti e due insieme. Tu dici per... Anche nello stesso momento. Volete esibirvi insieme? Avete mai pensato di... Di fare un duo? Voi due e noi quattro. E noi due. Viene a fare un casino, ragazzi. Vabbè, meditate. Però non siete delusi. Cioè, dovete rispondere perché voi vi esibite per due minuti. Non vi vedo belli carichi. Come mai? Bravo. Già è una risposta. Su. Cerchiamo, andiamo. Allora, posso dirti che con molta fierezza, secondo me questa è una delle introduzioni più brutte che noi abbiamo no, mai fatto. No, abbiamo fatto peggio. Abbiamo fatto di peggio, sì. Abbiamo fatto di peggio. Ma stai scherzando? Questo è bello. E non so perché sono sobrio, le altre non me le ricordo benissimo. Ah, vedi che forse una volta che non bevi 8 bicchieri di vino prima di iniziare, non dico che facciamo ridere, ma quantomeno diamo informazioni, loro ci ascoltano e in 10 minuti abbiamo fatto tutto. Ho capito, la prossima volta ti torna più gente. Noi questa serata la vogliamo affossare o la vogliamo portare? Ma noi abbiamo pensato a tutto. Partiamo con il primo? Sì, che non so chi sia, quindi aspetta. O tu fai un nome e io mi invento cosa un cognome. Cosa molto importante, i soldi. Sì, i soldi, stasera sono, forse li dobbiamo tirare fuori noi i soldi. Quindi cerca di bere con moderazione. Ma appunto, per l'appunto. Sempre bello lavorare con professionisti, signori. Grazie. Che famo? Partiamo con il primo. Ma chi è il primo? Non lo so. Allora, fate... Io... Ma fai tu tipo estrazione? Tipo sorteggi Champions League? Ma sai che... Allora, guardiamo, prendiamoci quei 30 secondi. Tanti comici sono questi, non è che sono molto lontani. A me l'idea di un Romualdo che apre piace. A me, io ti dico che secondo me Romualdo... Tra l'altro stasera Romualdo è una situazione un po' particolare. Lo dico per il pubblico, perché lui c'è tra i comici, che si esibirà dopo se non scappa, c'è Laura Formenti, che è una comica che... Mi aspettavo un applauso un po' più forte. L'ho detto mia zia Mariuccia. E ho scoperto prima che Romualdo Greco è molto fan di Laura. Quindi lui stasera, oltre alla tensione per esibirsi di fronte al pubblico, ha la seconda tensione perché si sta esibendo di fronte a una delle sue beniamine. Quindi farlo aprire vuol dire proprio fare un brutto torto a Romualdo. Beh, possiamo mettere lui dopo Laura Formenti. O assieme a Laura. No, Maggioni non c'è, Maggioni. Vabbè, non è giornata. Che ci sono stati, porca troia, che sguardo assassino che ha ragione. Io cane, ve lo fate voi. Cioè, no. ha ragione. Non si legge un cazzo. Ma no, ma io ti critico, ti critico io, Enrico, ti ho mai criticato? Sì, sincero. Ti ho mai Tu no. Grazie, Enrico. Però io ti offro la fascia. Venduto. Partiamo con il primo, guarda, secondo me c'è tipo, me lo ricordo lui l'altra volta. Laghi, dai. Te la senti, Laghi? Fate un grosso applauso. Sei un grande Laghi, Emanuele Laghi, fate un grandissimo applauso a questo eroe. Emanuele Laghi. Ma porco. Ho detto porco. Se vi siete sentiti in causa non è colpa mia. Allora, bene, così partire subito, già mi si è intrippato, cioè va bene. Allora, bene, come state? Come sono andate queste vacanze di merda? Avete scoperto qualcosa di buono? Io ho scoperto di essere una banana. Giallo fuori e bianco dentro. È uno stereotipo per quelli che sembrano asiatici ma sono europei. Io in realtà sembro cinese ma sono italiano e sono il contrario dei vostri abiti firmati. Però oggi non sono qui per parlare di questo. Mi chiama proprio aprire. Allora, una riflessione che ho avuto in questi giorni è stata questa. Anzi, vi faccio una domanda. Secondo voi, Giorgia Meloni è fascista? Secondo me no. Secondo me vi sbagliate. Giorgia Meloni non è fascista. Ha tanti amici fascisti. Avete presente quelle ragazze che sono eterosessuali, che sono piene di amici gay? Come si chiamano? Le frociarole. Giorgia Meloni è una fascistarola. Cioè, è piena di amici fascisti, li capisce, li comprende, li consola, però non rivela agli altri che sono fascisti, perché sa che devono essere loro a uscire dal loro nostalgico armadio. Quando Giorgia dice che nella grande famiglia di Fratelli d'Italia non ci sono fascisti, mi ricorda mia madre quando dice che mio zio Claudio vive con il suo amico e che i bambini che hanno li hanno comprati in America, perché in America li vendono i bambini, no? C'è il negozio dei bambini accanto a quello delle armi, così a volte puoi prenderli entrambi e sono pronti per andare a scuola. Ecco, io penso che è il momento di fare un'apertura. Bisogna aprirsi al nuovo e da LGBTQ plus diventare LGBTQ plus F. Sì, perché anche i fascisti sono discriminati. Sono discriminati perché amano un uomo e il loro amore è punito dalla legge. È vero che poi nessuno gli fa un cazzo, però ce li vedete? Se si vergognano, stanno male, cioè alzano il braccio a mezz'asta, cioè che sembra un'erezione venuta male, oppure quando gli chiedono sei fascista, no fascista io, ma cosa dici? Cioè bisogna aiutarli, bisogna farli entrare nella grande famiglia dell'LGBTQ plus X, cioè e fare un bel pride assieme. Transessuali, bisessuali, omosessuali e fascisti. Io sicuramente vado vicino al loro carro, perché almeno si vestono decentemente. Camicia nera, semplice, elegante, snellisce, che tutte le volte che vado al Pride mi danno paillette, ali, mi vestono come un albero di Natale cinese. E per suggellare questa unione ho pensato a un bellissimo gadget. Un vibratore a forma di testa di Mussolini, con quelle belle venazze, che se ci pensate è perfetto per i fascisti. Oh sì, ti prego, dai, sottomettimi come hai fatto con la democrazia. Ah, ma è perfetto anche per gli antifascisti. Sì, nel culo i fascisti mi stanno, mangia la mia merda. E se finalmente un antifascista avrà un orgasmo così, potrà dire anche Mussolini ha fatto cose buone. Ora, allora, per la par condicio io dovrei parlare anche dell'altra parte. Avevo pensato di dire che Letta non è comunista, ma che ha un sacco di amici comunisti. Però poi mi sono reso conto che Letta non ha amici. Potrei parlare di Renzi, ma non voglio scendere così in basso e quindi parlerò del mio ano. Faccio coming out perché io sono una di quelle persone che appartiene alla comunità di chi soffre di emorroidi. Ho detto coming out perché tra la comunità gay e la comunità di chi soffre di emorroidi ci sono un sacco di punti in comune. Cioè, nel senso, non parli, nel senso, di solito hai paura a dire che soffri di emorroidi perché potresti essere preso in giro. E poi, insomma, tante persone che fanno parte di questa comunità sono insospettabili. Tu non lo sai, li conosci, ma magari fanno parte di questa comunità e un giorno anche tu potresti far parte di questa comunità. E in entrambi i gruppi si parla un sacco del buco del culo. E c'è da dire questo. Una persona con le emorroidi può sposare un'altra persona con le emorroidi, però non c'è nessun pride per le emorroidi. Sarebbe fantastico, no? Ho già pensato alla bandiera marrone e rossa e un dolce tipico, cioè torta al cioccolato con sopra le fragole. non le potrete mai più mangiare adesso. Ecco, il momento topico per chi soffre di emorroidi è il giorno in cui devi affrontare la tua prima colonoscopia. Sapete cos'è? Ti infilano una telecamera su per il culo e poi danno quello che vedi, cioè quello che c'è, lo trasmettono in streaming tipo Netflix. Ora, ovviamente questa cosa è imbarazzante. Come si fa a renderla più imbarazzante? Secondo voi? Come può essere una colonoscopia ancora più imbarazzante? Un'idea, un'altra idea potrebbe essere metterci del pubblico. Avete presente Scrub? Avete presente i medici che seguono i dottori esperti? Ecco, il giorno della mia colonoscopia c'era il gruppo degli studenti del medico a guardarmi. Ho detto, ma porca puttana, ma di tutte le visite che ho fatto, il pubblico doveva avercela per quella al buco del culo. Era una cosa veramente, tra l'altro carini, giovani, simpatici, anche quelle persone che dici, ah cazzo, cioè, ci farei anche una storia, una bella serata con questi. Però insomma, iniziare una conoscenza dalla visita del buco del culo può funzionare in una discoteca gay, ma in altre situazioni non è proprio consigliata. Ecco, io ero così imbarazzato che ho fatto, per togliermi dall'imbarazzo, ho iniziato a sparare cazzate, a dire minchiate, a fare tipo battute, come se fossi su un palco questa sera con voi, no? E ho iniziato a dire, avete trovato qualcosa? Io non trovo più le mie chiavi, non è che sono finite là dentro? Allora c'è qualcuno lì che dite, interessante? Dovremmo mettere il bollino rosso sullo schermo. Sono pronto per uno speciale su Netflix. La reazione è stata la stessa vostra. Nessuno ha riso. Io in realtà non mi ricordo che cosa ho detto perché ero così imbarazzato che so che a un certo punto mi hanno zittito e a quel punto il mio imbarazzo ha raggiunto il massimo. E quando ti imbarazzi, cosa succede? Stringi. Ti stringi tutto, solo che io avevo una telecamera su per il culo e se stringi l'ano la telecamera la risucchi sempre di più e quindi la tiri su e hai iniziato a dirmi no, lasci, io tiro, più la gente in coro che diceva no, lascia, io tira, cazzo, il mio culo ha bucato lo schermo. Alla fine, vabbè, mi è arrivato il referto, hanno detto che sul mio emorroidi non c'era niente di preoccupante, mi hanno consigliato di vedere uno psichiatra, ma da quel giorno ho capito una cosa, che nel culo d'ora in poi ci voglio solo la testa del duce. Grazie mille a tutti. Io adesso cosa devo fare? Vi ricordo che se volete seguirmi vi aspetto per un bel pollicione su Facebook, per un bel cuoricione su Instagram o nel bagno per un bel soffocone. E chiamo sul palco, chi cazzo devo chiamare? L'Academy di Airo. Faccio quello che voglio, vado ancora avanti. Avrei finito, però se volete vado avanti, cioè nel senso... ma se volete io vado avanti. Grande applauso Emanuele Laghi! Eroe! Emanuele Laghi! Aspetta! Un applauso solo. A Enrico Veronica, che per la prima volta nella sua carriera si è improvvisato uomo d'ordine. Guardate Enrico Veronica che sta tenendo le redini di questa serata. Cosa può fare brutte persone? Enrico, non eri così una volta. Brutte persone ha reso Enrico Veronica una persona bella responsabile. Persona. Enrico, ti ricordavo una persona migliore. Adesso basta, siamo seri. Chiamiamo una quota femminile, cosa dici? Hai delle cose da dire? Io. Allora, che abbiamo di donne? Ne abbiamo solo una. Che abbiamo di donne? Il mercato, Ah, mercato no, delle... te, è vero. Guarda, io chiamerei questa persona qua. The first. Ma chi è? Ah, in che senso chi è? No. Nella vita o no? Ma come ti permetti? Ma chi sei tu? Non avevo collegato il nome. Mastroianni è arrivato. Allora, Ripetiamo. Te lo ricordi il nome, no? Purtroppo essendo all'Exalge, che questo posto un di po' sinistra, fricchettone, no? Zona di sinistra, di Sempione, sì, PD, quelli coi soldi che votano sinistra. Fanno un po' schifo, ecco, no? La gente guarda i video del terzo segreto di Satira, capito, no? Che ci, infatti noi. Ora, siccome siamo in questo posto progressista, dobbiamo far esibire anche delle donne. È andata così anche stasera. Stasera ne abbiamo tre. E quindi per 2-3 mesi siamo a posto noi. Allora, ma c'è una sicurezza? C'è questa? Io non l'ho vista. Chiamiamola, se c'è risponde, se no ce n'è un'altra. C'è è un presente altro... Chiara Cherubini? Vedi, io lo sapevo. Era una faccia nuova. Fate un applauso. È già venuta Chiara. Ma e qua? Ha già fatto più bella figura di quella che fai tu qua di solito. E beh, ci va un po'. Ah, quanta pazienza. Un applauso agli MCs. Come si dice il plurale di MC in inglese? MCs? Mi sono già incasinata. Buonasera bella gente. Allora, com'era la storia dell'applauso? Che non l'ho sentito. Bravo, tienilo, tienilo. Che non mi ricordo il pezzo. Vabbè, cominciamo dalle basi. Sono Chiara Cherubini. Piacere, piacere, piacere, piacere, piacere, piacere. Meno male che siete pochi. Piacere, piacere, piacere. Ho 44 anni, ma mi piace di più a cifre invertite. Questa non arriva proprio. Tanto vale ammettere che ne ho 45. Faremo così la prossima volta. Poi che c'è da dire? Vengo da... Non sono di Milano, vengo da Asti. Chissà dov'è Asti, vediamo. Non fingete che non lo sapete. Dov'è? Dai, sentiamo. Sentiamo. È in Calabria. Dipende dove la metto. Dai, longitudine, latitudine... 72.000? Meno uno, che sono io che me ne sono andata. Ma come mai conosci così bene Asti? Ma conosco gli abitanti delle città. È una forma di feticismo anche questo. Beh, bello, bello. Conosci solo me? Conoscete, ma soprattutto conoscete degli qualcuno, un astigiano? Conoscete? No, perché... Paolo Conte. Paolo, lo conosci? Cioè gli hai stretto la mano, ci sei uscito a cena? No, lo conosco. C'è limonato? Niente, perché gli astigiani non esistono, la verità è questa. No, la seconda ipotesi è che gli astigiani non escano dalla città. Io non so perché, c'è questa cosa, io non ho mai incontrato, cioè, no, qualcuno sì, ma veramente pochi, ho incontrato pochi astigiani fuori dalle mura di Asti. Se due astigiani si incontrano all'estero, per dire Novara, si abbracciano, si commuovono, come se avessero vinto i mondiali dell'82, tu pensa. Non vi spaventate, una donna che parla di calcio, che rarità, quasi quanto incontrare una astigiana. Pensa nella stessa serata, una astigiana che parla di calcio. No, vabbè, perché gli astigiani non escono? Forse perché hanno il Barbera e il Barolo? È una succursale del Veneto? È un ottimo, ma io ci sto pensando da anni e anni, perché sono la sola a essere uscita dalle mura? Sarà perché... No, no, io vado in tournée ad assaggiare tutti i vini, è diverso. No, la mia ipotesi è anche che siano molto pigri, no? Infatti io sono molto pigra, ho questo problema, o come direbbe il signor Meloni, il signor Presidente, ho una devianza giovanile. Giovanile. Una volta, adesso è senile, ho una devianza che mi direbbe il signor Meloni. Perché ce l'abbiamo tutti con questa cosa che si è fatto chiamare presidente? Il presidente? Facciamo tutti gender fluid? Poi per una volta che una fa coming out, così platealmente... Poverina, povera bimba. No, dicevo, il signor Meloni, il signor Giorgio Meloni, io non so più come chiamare... Le Meloni mi direbbe, fai sport... A una pigra, è come dire a uno che sta affogando, nuota, nuota. No, io sono così pigra, ma così pigra che i tortellini li mangio crudi. Sono così pigra, ma così pigra... Anche te li mangi crudi? Sì, vero, non c'ho voglia di fare un cazzo. Cioè, non ho talmente voglia di fare un cazzo che non ho voglia neanche di abbinare i vestiti, il pezzo di sopra col pezzo di sotto. Infatti mi vesto sempre di nero e vi tocca vedere sul palco una vestita da sacco dell'immondizia. No, questa cosa di abbinare il pezzo di sopra col pezzo di sotto, io ho tutto nero, faccio prima, no? Il pezzo di... Perché c'è già c'è la mia vita che è a pezzi. La mia vita è tipo un puzzle, ma senza la scatola con l'immagine. E quindi vado a tentoni, no? Prendo un pezzo, infanzia, pensione. Non è che è proprio, metto l'infanzia qua, droga. Ci sta. E con questo metodo io ho raggiunto ogni successo nella vita. Attrice. Dislessia. Un successo. Radio. Sponsor. Insulti. Un successo. Tutta così la mia vita. È che ci vorrebbe qualcuno che mi spiegasse come comporre questo puzzle, no? Cioè proprio una figura che mi risolvesse il puzzle, che mi risolvesse la vita, che mi svegliasse al mattino, che mi dicesse dove andare, cosa fare, cosa non fare, chi vedere, chi non vedere, chi incontrare, chi posso incontrare, come vestirmi, che mi dicesse che mutande mettere e che mi comprasse le mutande. C'è una figura così, la conoscete? No, lei è disperata. No, sono anni che la cerco. C'è una figura così? Sono risposta perché ho già visto il pezzo. E vaffanculo allora. Va bene, allora dimmi se è la stessa risposta. La moglie. La moglie. La moglie è la soluzione. Intanto è gratis. Se ti piacerebbe. E che la paghi a rate. Poi se la restituisci alla fine... c'è la maxirata finale e si svaluta parecchio in fretta. Io, come vedete, riesco a svalutarmi anche se non sono una moglie. Autostima, commiserazione, Nutella, gelato, pizza, lasagna, ossobuco, coi piselli. Droga. Grazie. Valeria Eroe Fadenti, gli MCs, plurale. MCs. Chiara Cherubini. Un grande applauso a Chiara Cherubini. Sarai felice, Enrico, che non devi più intervenire perché la scaletta è qua, tutto scritto. E adesso non si torna più indietro. Abbiamo fatto una cosa molto spiacevole, abbiamo messo in ordine i comici da chiamare. No! Sapete quelle cose organizzate, che porcheria per un posto del genere. Dopo uno ci prova a tirare la serata in basso. Ma quando anche tu sei cambiato, allora forse è giusto che anche io e te cambiamo, Valerio. No, non mi avrete mai! Harry! Vergogna! Scatenato! Ti meriteresti di salire adesso. Ma no, no! Non lo... No, perché ha fatto una scaletta che va rispettata, il cretino. Per colpa tua! Andiamo avanti! Anche il pubblico. Tu lo conoscevi Tiziano Pantano? O Pantano? Penso Pantano. Pantano o Pantano? Vogliamo parlare di Pantani? Pantani, l'hanno ucciso... L'hanno ammazzato, lo sappiamo tutti, vero? È andata Silenzio? Benissimo. Non volete parlare? Vabbè, cazzi vostri. Perché in sala noi abbiamo il colpevole! Minchia, sto paese, non farai conti con Pantani, non andremo da nessuna parte. Marco Andiamo Pantani. Avanti con quello dopo perché dobbiamo... Marco Pantani lo ha ucciso Sonia! Basta, Valerio, non ha senso. Non proprio non interessa. Ci andiamo... Poi vince la Meloni... Tu non risolvi Pantani, vince la Meloni! È tutto legato! Pantani, la Meloni... Ne fra un cazzo, loro hanno... Instagram, dai, andiamo avanti. Come? Andiamo avanti, dai. Ma perché grandi... ti arrendi così? È questo? No, mi sono i coglioni, perché Pantani non si scherza, è pirata. Di cosa stiamo parlando? È colpa di Enrico Vogliamo Veronica. No, non date la colpa. Sì! Tornate tra di noi, tornate. Tu hai rammollito tutti! Tornate tra di rammollito! Ha ragione, basta. Basta parlare di Pantani. Signore, chiamo il prossimo comico. Signori... Anche lui detto il pirata. Chi è? Io lo so chi è. Va bene, signori così. Signori, un grande applauso ad Alberto il pirata Vitale. Ma non era Romualdo Greco? No, dopo. Stavo annunciando Romualdo. Ah, no, no, no. Allora, io ho un pezzo su Pantani. Vabbè. E no, niente, prima Emanuele mi ha fatto venire in mente quando io ho fatto, lui ha parlato di colonoscopia, io ho fatto l'esame della prostata, in realtà, quando si diventa vecchi si fa. E giusto per dirvi come funziona quando voi sarete vecchi, funziona così, ci si spoglia, ci si piega, e il dottore poi con un dito, inserisce un dito e controlla che succede, diciamo. E per un uomo la paura in quel momento lì non è tanto sentirsi dire, ma ho trovato qualcosa che non va. E sentirsi dire, voilà, senza mani, ale! Vabbè, parliamo un attimo di Natale. Allora, no, Natale, volevo sapere se avete ricevuto qualche regalo brutto, diciamo, a Natale. Avete ricevuto qualcosa di particolarmente brutto, potente? Vai, vai. Lucine per la bici, va bene. Mutande, che adesso sono ancora più brutte ora che le indossi, probabilmente. Niente di strano praticamente. Un bagno schiuma, va bene, perfetto, perfetto. No, io invece ho ricevuto un bel regalo, che è questo libro, che si intitola Come fare l'amore a una donna. È un libro, tra l'altro me l'hanno regalato le mie figlie, quindi non so se voglio dire qualcosa questa cosa. È un libro raro, tra l'altro, è un libro del 1960 PT, che sta per pre-Tinder, e infatti prima di Tinder si leggevano queste cose che danno consigli su come approcciare una donna e come convincerla a fare l'amore a una donna, appunto. Allora, ci sono consigli principalmente per gli uomini, però ci sono anche per le donne, e volevo leggervi qualche passo di questo libro. Usate gli occhiali, ma come vi ho detto, sono un vecchio. Allora, consigli per l'uomo. Allora, il primo consiglio è crea il più possibile un ambiente pulito. È normale, quindi. Quindi, diciamo, vuol dire, sistema un po' la casa se vivi con i tuoi genitori, giusto? Dai fuoco all'appartamento e ristruttura se vivi da solo da un po', perché si fa prima, si fa decisamente prima. Crea l'ambiente adatto. Se vivi con una fidanzata o una moglie, nascondi le foto della fidanzata o della moglie nei cassetti. Se vivi ancora con tua mamma, nascondi tua mamma nell'armadio. Giusto. Bene, le foto di te da piccolo con il tuo cane d'infanzia. Assolutamente da evitare, il tuo cane d'infanzia impagliato su un tavolino. Sono cose importanti che bisogna sapere. Benissimo, le foto di te da bambino con il tuo amico d'infanzia. Da evitare, importante, il tuo amico d'infanzia impagliato su un tavolino. Mi hanno cambiato la vita a me queste cose. Prepara la musica adatta. Allora, scegli una musica soft. Allora, ballad se lei è un tipo rock, musica lenta se lei è un tipo romantico. Bene anche le registrazioni della Santa Messa a San Pietro, ma solo se devi scoparti delle vecchie. Attenzione, in questo caso da evitare... la salma di Papa Ratzinger impagliato su un tavolino. Allora, frasi per invitarla a uscire. Qua incominciamo ad arrivare al momento clou. Quindi Romualdo, so che tu sai tutto, ma incomincia a fare attenzione. Allora, frasi per invitarla a uscire. Posso portarti a cena da cracco domani sera? Andiamo con la mia Ferrari nuova. Funziona. Posso portarti a cena da cracco domani sera? Viene anche un mio amico di vecchia data, Riccardo Scamarcio. Funziona, ma bisogna fare attenzione che lei a fine serata non se ne vada con Scamarcio. Attenzione alle fasi da evitare. Che dici domani di andare a mangiare una pizza all'ananas? Ah, ovviamente paghiamo la romana. Non funziona. Un'altra fase che non funziona è, vuoi venire dall'Urido domani? Viene anche un mio amico di vecchia data, Maurizio Costanzo. Non funziona, e inoltre bisogna fare attenzione che fine serata tu non rimanga da solo con Maurizio Costanzo. Arriviamo più vicini. Frasi per farla salire in casa. Poi ragazze, confermatemi se sono cose che vi attirano. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Classico. Funziona, ma solo se prima avete versato un vasetto di sale nel suo cocktail. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di farfalle? Funziona, ma solo se le farfalle sono morte, altrimenti passerete la serata così. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di quadri di Picasso originali? Funziona. Vuoi salire da me a vedere la mia collezione di quadri di Picasso? Sono tutti falsi, ma del resto anche tu hai le tette rifatte. Non funziona. Non funziona, funziona. Oh, incominciamo ad arrivare al momento caldo, frasi che funzionano per farle fare l'amore. Sei bellissima, ed io me ne intendo, sono un famoso fotografo d'alta moda. Funziona. Sei bellissima, e voglio dirti una cosa, tra noi non sarebbe solo sesso. Sarebbe coinvolgimento fisico ed emotivo, sarebbe l'unione di due spiriti, due anime che si incontrano e si fondono in una sola sotto l'insegna del piacere. Allora funziona, soprattutto se l'avete conosciuta bevendo insieme un succo di Kamut e Seitan in un locale vegano subito dopo un workshop di yoga tantrico fatto da un santone indiano. Allora attenzione, attenzione qua, incominciamo alle cose importanti, frasi assolutamente da evitare. Spogliati e girati. Non funziona. Spogliati e girati e mettiti vicino al televisore che oggi c'è la partita. Attenzione, uomini, non funziona. Spogliati e girati e mettiti vicino al televisore che oggi c'erano le repliche del Maurizio Costanzo Show. Non funziona. Attenzione. Frasi che funzionano invece al risveglio, la mattina dopo. È stata una serata meravigliosa. Non vedo l'ora di ripeterla con te nella mia villa a Porto Cervo. Funziona. È stata una serata meravigliosa. Non vedo l'ora di ripeterla con te, ma che ne dici se la prossima volta chiamiamo anche il mio vicino di casa di colore? Può funzionare decisamente. Frasi da evitare al risveglio, queste sono importanti. Allora, pronti? Chi cazzo sei tu? Non funziona. Un'altra che non funziona è vestiti che arriva mia moglie. Un'altra che non funziona è stato bello, ma sono stato meglio quella notte che a Maurizio Costanzo. Allora concludo con i consigli per la donna, è giusto oggi, abbiamo anche più donne che si sbiscono, più donne anche in sala, quindi consigli per le donne, possono essere utili, frasi per farlo salire in casa. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma ho un sacco di roba da bere. Funziona, sappiate che funziona. Un'altra, vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do e posso offrirti solo una birra analcolica. Non funziona. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Poi te la do. Funziona. Funziona decisamente. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma mia nonna ha una certa voglia. Può funzionare. Attenzione, può funzionare. Allora, l'ultima, questa è la più importante, frasi che consiglia questo libro importante alla donna per farlo salire in casa. Vuoi salire da me a bere qualcosa? Non te la do, ma ti faccio un pompelmo. Non funziona, ma ci siete vicino. Alberto, il pirata vitale! Alberto Vitale! Grande applauso. Stiamo salendo, stiamo andando tutto bene finora. E per questo motivo, noi adesso rilanciamo. È arrivato il momento dell'Academy. Quando è un plebiscito... Signore e signori, è un onore e un privilegio presentarvi i ragazzi della mia Academy. Che non li butteremo sul palco assieme perché sarebbe ingiusto, perché ognuno fa le sue cose. Ma un giorno chissà. Ma un giorno chissà, l'abbiamo buttata lì. Partiamo con il primo. Partiamo con il primo che è anche il primo membro ufficiale dell'Academy. Sì, il primo partecipante che ha avuto le palle di venire qua già da diverse volte. Sì, ci siamo visti una sera. Annusati. Dopo che io avevo bevuto 12 birre, l'ho visto in faccia, gli ho detto, te hai qualcosa, un bagliore. Quindi fammi capire, non era neanche una sua idea. Cioè tu l'hai visto e hai detto vai, devi farlo. Io sono come Pippo Baudolo. Scopro, ma se uno vede il bagliore, al bagliore non si discute. E quindi, è un imitatore. È un imitatore, ma non solo. No, no, infatti era virgola la mia. Poi lui, un barzellettiere. Fate un grosso e lungo e largo applauso. No, cazzo, non è che fa due robe. Cosa ha fatto? No, no, stava commentando il mio fatto che lui è sia imitatore che barzellettiere. Un esperto di serie TV, esatto. Dice no, insomma, dice. Spero che magari anche stasera, non so che pezzo vuoi fare, però mi ricordo quella bellissima digressione su una serie TV con un noto... Non spoilerare, No, no, infatti io con un noto attore italiano mi fermo. Stiamo facendo l'introduzione più lunga del suo pezzo. No, non è vero questo, questo, questo è ingiusto, è ingiusto. Lo chiamiamo, sei carico? Signore e signori, Antonio Giuseppe Dante! Dante! Quale microfono vuoi? Ti chiamiamo Giuseppe, Antonio o Dante? Antonio va bene. Antonio, scegli questo o quello? Questo va bene. Proprio quello che ho in mano io, però vabbè. Oh, sei posato questo, quindi, ok. E dice, ed è sempre andata bene, perché rovinare la tradizione? No, appunto, esatto, sì. Allora, io non faccio, io sono qua perché a me piace stare qua con te. Ti dà fastidio? No, assolutamente, sarebbe il contrario, mi avrebbe l'ansia stare da, da solo. No, sono un novellino, non sono esperto come, come lui, che beh, quando... è un gigante della comicità lui, quindi... Pensa a te chi ti ispiri tu. Sì, sei a sicuro? Lui e ad Aldo Giovanni Giacomo. Mi! Cioè tu tra Aldo Giovanni Giacomo e lui non, non, niente in mezzo hai trovato? No. Tutti questi anni tu proprio niente che ti abbia catturato una mezza giornata, no. Loro e lui. Sì. Ma no, ma io chiedo, faccio domande. La risata contagiosa più contagiosa della mia. Volete sentire la mia risata contagiosa? Che qua non l'ho mai fatta? La faccio. Vado, eh. Ma prego. Ormai questo è dibattito, cioè, che tra l'altro Shining vuol dire proprio baglione, quindi hai visto? E avete imparato qualcosa? Ogni giorno si impara qualcosa, hai visto? Questo era tanto così per rompere un po' il ghiaccio, esatto. Adesso comincio con qualche freddura e non sempre in tema. No, ma il mio cavallo di battaglia l'ho detto 8000 volte qua, quindi lo sapete già tutti. Non... Vai, vai. No, sicuro? No. No, me lo di no. No, to, tiro dopo il cavallo di battaglia. Sì, dopo, magari alla fine. Ma che fai adesso? Non è che fai la risata, è come lui, non è che fai la risata il cavallo di battaglia. No. Ci sarà un cazzo di mezzo, sì. No? Io comincio metà, con comincio... blocco. Ok. Vai. Allora, prima ho visto un cantiere e c'erano i muratori con il giubbotto antiproiettili. E ho detto, perché avete il giubbotto antiproiettili? E mi rispondono, per proteggerci dal cemento armato. Ho sentito un ululio. Sarà una risata contagiosa. No, no, ma sta andando, perché comunque uno ci mette un attimo. Cemento, armato, sì, pensa in che senso. Il cavallo di battaglia è per ultimo. Esatto, esatto, okay. È quello che ti dico, cioè, vai. Va bene, allora, il maiale che sta male, chi chiama? Scusa, mandalo a fare in culo che parli. Io, tu sai cos'ha il maiale che sta male, cosa fa? Okay. Giovane! Il maiale che sta male, chi chiama? Qualcuno vuole... Chi chiama il maiale che sta male, signori, eh? Chi chiama? Chiama l'ambulanza. Ah, sai che ci ho messo anch'io quei 3-4 secondi. E sapete perché la chiama? Perché un maiale che non dorme mai. Il maialetto, maialetto, maialetto. Ah, ok, questo è più facile se la spieghi. Esatto. Sennò... E con chi va? Va con il pollo che sta male. Al policlinico. Qua c'è tutto un crossover delle mie cazzate proprio. Cazzo, infatti, hai fatto un trittico, cazzo, bam, bam, bam, esatto, così. Esatto, sì. Bravo, proprio bravo, così. Mi piace, è una bella carica. Qual è la bibita preferita degli elettricisti? La bibita preferita? Da un elettricista. Tu, Valerio, lo sai? Non ne ho idea. Chi sono andata vicino all'acqua come? Chi è che ha risposto l'acqua? L'acqua come? Brillante. No. Corrente. Sì, l'acqua corrente. Bravi. Bravo. Benvenuti alla prima puntata del Quizzone. Il Montepremi, abbiamo una bicicletta col cambio Shimano. Vai con la prossima. E non solo l'acqua corrente, anche la birra alla spina. Sì! Ha vinto Enrichetto. Ok, prima sto guardando le impostazioni. Quante volte la beve la birra? No. 2 volte. Bella questa, grazie. Che bello, per la quarta parete non c'è più. No, il la quarta parete non, è qua, non c'è è là, proprio. Non c'è più, è finita qua. Ci puliamo il culo con la quarta parete. La radiamo al suolo. Bravo, con cazzo di bravo. Quarta parete. Bravo, bravo, bravo. Guarda, si sta caricando. Sì, vai, prima vai. Stavo guardando le impostazioni del lettore DVD, no? In inglese l'ha scritto setting. E ho detto, ok, c'è il setting e poi c'è l'otting, il noving, il dieching. Posso contare fino a centing, però. Sì, falla tutta. Senti. Posso farti una domanda io? Sì, certo. Dov'è che l'hai trovato prima un lettore DVD? Comodo, comodo. No, era un esempio per fare... Ah, no. Era, no. Era un pretesto per un apparecchio elettronico nel quale c'è scritto setting. Curiosità mia. Una scusa. Questa battuta qua del setting l'ho inventata io, mi è venuta no, a me. No, no, ma si vede. Cioè, ah, se io occhi chiudi sì. Me la sento, dico, è tua. Cioè, non c'è dubbio. Questa sì. Poi il mio cavallo di battaglia, allora. Cioè, adesso. Ma però, no. Caricalo, amico. Ma mio. Più che altro perché. Non... Vai, vai. Allora, perché nel deserto del Sahara c'è un ristorante, ma non c'è il primo e il secondo? Perché? Perché? Facce da culo, perché? E brava, sì! No! Con questa sì. Cioè, anche lui sapeva le chiuse dei tuoi pezzi, però non è che li ha fatti. No, esatto. Vero che sapevi le sue chiuse? No. Bravo! No. Sei tu che le sai. Ma perché tu... Vabbè, lo impariamo dopo. C'abbiamo un bel da fare anche con te. Non è vero, tu mi hai sentito l'altra volta, quindi sì. Vai, vai, sentiti libero. Ok, va bene. Piccola digressione su un film che ho visto in TV, un trailer. Piccola digressione su un film che ho visto in TV. Il trailer. So il trailer, quindi non l'ho fatto incazzare. No, già mi ha fatto incazzare, dovrebbero scrivere, ecco, avete presente, vietato ai minori. Ecco, quel film io metterei vietato agli italiani. Perché? Perché se lo vede un italiano gli si spezza il cuore, giustamente. Cioè, c'è una scena dove una è anoressica e non vuole mangiare. E cosa fa? Butta un piatto di pasta nel cestino. Non, nessuno si deve permettere di fare una cosa così. Cioè, è maltrattamento di pasta. Poi davanti a un italiano, cioè io ho detto, ma li mortacci tua! Ma ti do in, te lo in testa quel cazzo di piatto. Cioè, non lo so... Sì, esatto. No, sì, cioè voglio dire, non si maltratta così un piatto di pasta. Cioè, come in America che la carbonara la fanno con la panna, prosciutto cotto, crudo, speck e piselli. E bacon, e un po' di uovo, ma giusto un po'. Ma cosa ne pensiamo degli americani? Dal punto di vista culinario, che devono imparare tanto. Cioè, devo venire qua a fare l'alberghiero e imparare come si cucina veramente. E dell'11 veramente... settembre cosa ne pensiamo? Vuoi fare... Ah, black humor? No, no, è una domanda. Cosa devo pensare? Niente, vai, glissa, glissa, vai col prossimo. Sì, sì, vai, vai, vai, e adesso? Pezzo tuo. Il mio cavallo di battaglia che lo sanno tutti. È il tutti. Momento, è il sì. Momento. Signori! Esatto. Ah no, per raccontare una cosa così che non fosse una barzelletta, ecco. Quell'altra volta avevo fatto la critica alla famosa serie TV Sopravvissuti. Ah, signori, sì. Questo è... Avevo dissato... Carmelo Bene, lui gli caga in testa. Se lo fai come... Vai, vai, Sopravvissuti. No, sì, avevo dissato Sopravvissuti, una serie TV. Fai i nomi, come l'altra volta, col coraggio. No, l'altra volta avevo criticato due personaggi di quella serie. Ma i nomi e cognomi come hai fatto l'altra volta? No, avevo detto una serie con Lino Guanciale. Vai, cosa ma non ho criticato il suo personaggio, avevo criticato altri due, non lui, poverino, che non ha fatto niente. Era uno dei poveri, degli unici personaggi non stronzi, quindi nulla da dire. L'altra volta due. Eri stato più critico con Lino Guanciale. Ti ha forse scritto Lino Guanciale? Stai forse avendo paura? Stai subendo pressioni da Lino Guanciale? No. Sei sicuro? Sicuro. Non ti vedo convinto, andrai avanti, perché l'altra volta eri più carico. No, l'altra volta sì, mi aveva scritto sì, perché l'avevo dissato, ha risposto al dissing. Non parlare con Lino, non dar confidenza a Lino Guanciale. No, mi ha risposto al mio dissing, mi ha detto... Tu critichi la mia serie TV, ma almeno so recitare, non come te, comico da quattro soldi. Ha detto proprio comico da quattro soldi. E qui c'è ragione, perché sono un novellino, devo stare zitto, mi devo inchinare a un attore esperto e attore guarda con la maiuscola. Guarda il momento di gelo che abbiamo creato. No, come me che non capisco un cazzo. Guarda come se la stavamo quasi facendo, no, cioè, metto sì. In mezzo anche io con te, poi invece magicamente puff. Il momento del cavallo di battaglia. Mi ha dissato, non so come... Vai col cavallo! Signori! Poi vado a piangere in un angolino. Va bene. Guardate, va bene, lo dico. Guardate il contributo che dà Valerio. Va passa, bene, lo dico. Va a prendere da bere, torna indietro, va a pisciare, torna indietro, va a fumarsi una cannetta, torna indietro e non dice niente. È un grande della comicità, è un gigante, E tu ti ispiri a lui, eh? Io sì. Ho l'occhio vigile sulla serata. Esatto. Ok, va bene, dico il cavallo di battaglia. Cos'è? Contestualizza! Non siamo al mercato. Ok, prima dico il cavallo di battaglia, poi faccio un'imitazione alla fine, poi me ne vado. Ah, l'imitazione! Alla fine, dopo il cavallo di battaglia, però. Vai, vai, vai. Allora, nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi. Tranne Pep. Pepsi. Pepsi. Lei stava bevendo, ha deglutito, ha riso, è la cosa più bella. Magari stava bevendo una Pepsi, che ne sai, è proprio... È quasi ammazzata una, grandissimo. Oh, mi dispiace, non volevo. E adesso è il momento. Nel senso che si è strozzata. Non si è sforzata, no. Non se l'aspettava. Le è rimasto qualcosa in gola come pallina di catrame e muoro. Mi stai deludendo. Le è rimasto qualcosa in gola. Chiudete gli occhi. Vai. Questo piatto sa come piscio di cane. Stai diludendo. Tu vuoi che muoro? Io lo so chi è. Sì? Ma non lo dico. Non diludermi. Allora è lui. L'abbiamo riconosciuto tutti, signori. Lino Guanciale. Esattamente, Lino Guanciale gli che imita Joe Bastianich. Bravo, sì. Si stava scherzando. Poi gli stava fischiando l'orecchio al signor Guanciale. Ma anche a Bastianich. E anche a lui mi fa di sì. A tutti quelli che imiti tutte le volte che vieni. L'altra qua. Volta ho fatto Berlusconi. Crivio, mi consciente. Infatti, così ve le sta facendo, L'altra volta ho fatto Berlusconi. Però posso dirti, perché queste qui è un pubblico un po' di stronzetti, passami il termine, che tu gliela devi dire adesso, facci l'imitazione, se no sti qua non si godono il fatto che tu ne fai quattro mentre parli, perché non capiscono, stanno lì a ridono il telefono. Non c'è. Infatti l'altra volta lo ripeto perché mia mamma ha detto che l'ha fatto ridere, devi fare ripetilo che magari ridono ancora. Ha ragione tua okay. Mamma. La mamma ha sempre ragione. Giusto, signora. Allora Berlusconi se venisse qua cosa fa? Prima di tutto si compra l'exalge e poi mette le veline, le chiama le exalgette, come le olgettine qua le exalgette, giustamente. Ma perché non le exalgine? Scusami. Ah, vero, veline no. Exalgine, perché no, sì. Non voglio fare, però no, giusto, magari per assonanza, però è tua, te la regalo. No, sì. Signore, tu hai finito, mi sembra. Sì, ho finito, sì. E allora un grandissimo applauso a José Antonio grazie. Dante! Grazie. Grande, applauso. Non è il momento di abbandonare la nave, signori. È il momento in cui si vede la differenza tra i ragazzi e gli uomini. Signore e signori, qui l'Academy c'è chi la chiama avanguardia. Io posso dirvi. Sta parlando, che... Non è una pianta, ogni tanto parla. Ma vai. Io mi sono seduto qua ad ammirare. Che bellissimo. La gesta della mia Academy. Ma posso, adesso vuoi forse fare tu. C'è un altro componente della vuoi tua Academy. Un pezzo te? No, ma prima c'è il membro della tua Academy. Sì. Lo farai salire. Sì. Io dove stavo andando? Che famo? Ma scusa, ma io stavo dicendo adesso. No, volevo chiederti. Vuoi forse anche tu fare. Giocare con il nostro ospite? No, non ci tengo. Sei un senza palle. Sei un senza palle. Ascolta, io prego. L'Academy la ammiro con il rispetto che merita. E qua c'è la frecciata. No, non ti permettere, perché io ti metto le mani addosso. Sai che io qua nelle guardie del corpo. Ma io te le metto a te le guardie del corpo, che sono quelle due bellissime ragazze là, quindi non vi toccherei mai, signore, ci mancherebbe altro. Ma lui? A lui sì. Ho capito, amici miei, poi se le picchio la denuncia, non è che si può fare tutto. Sarebbe bello, ma non si può fare tutto. È il tuo momento, te la senti? Signori! Come lo descriviamo? Ma allora possiamo descriverlo come il Neymar della stand-up comedy. Cioè uno che ha i numeri ma gli piace ogni tanto simulare. Sì, tende a buttarsi, tende a ricamare. Esatto. Romualdo Greco! Signori, questo lo vedete solo qua, È molto esistenzialista. Vai. Mi piaci stasera. Hai un look da poeta. Allora procediamo a distruggere qualsiasi tipo di poesia rimasta in sala. Volevo ricollegarmi un attimo al libro che ha portato lui riguardo i consigli sulla conquista. Posso dire che portare Maurizio Costanzo ad un appuntamento può funzionare se devi rimorchiare mia nonna. Mia nonna lo adorerebbe, te la dà subito. Però forse la lancia prima Maurizio Costanzo, credo. Coperta questa parentesi, possiamo incominciare. Allora, mi chiamo Romualdo, come avete potuto sentire. Ho 26 anni e se non si fosse capito, sono timido. Molto timido. E non solo, sono anche introverso e soffro di diverse ansie, dall'ansia sociale all'ansia da prestazione. Non ho ancora idea di come io sia riuscito ad uscire di casa, i medici ancora non se lo spiegano. Ecco appunto, ridete un po', porca miseria, datemi un po' di autostima, vi prego. Che cazzo. Ecco, perché qua già mi sto cagando sotto. E niente, questa timidezza mi porta ad essere estremamente incapace ad improvvisare in qualsiasi tipo di interazione sociale. E questo si vede, per esempio, anche quando sono a casa. Mio padre torna dal lavoro e mi fa domande di difficile risposta, tipo: ciao Romy, com'è andata la giornata? E lì l'unica soluzione è fingermi morto, perché come cazzo ti viene in mente di chiedermi com'è andata la giornata senza prima mandarmi una PEC una settimana prima, o una mail, un messaggio? Cioè, devo prepararmi la risposta prima. Quindi l'unica cosa è fingermi morto in stile opossum. E devo dire che, siccome lui lavora nelle pompe funebri, è come se si portasse il lavoro a casa. Non vi dico poi ogni volta le operazioni per fuggire dall'obitorio prima che mi portano al forno crematorio. E quindi vi starete chiedendo come faccia ad essere su un palco e a non cagarmi sotto, appunto. Anche perché c'è una parte di me che in questo momento si sta dicendo: che cazzo ci fai qua? Cazzo ci fai? Torna in bagno a segarti, porca troia! Che è quella la mia occupazione principale. E dovrebbe, diciamo che è il mio momento di privacy in cui contemplo la vita. Insomma, l'unico momento in cui la vita ha della poesia. Siete un pubblico o un mosaico? Ditemi che cogliete la citazione ad Ade, vi prego. Avete mai visto Hercules della Disney? Credo ogni mamma, credo, l'abbia mostrato al proprio bambino. Basta che sia nato tra gli anni 90 e gli anni 2000. Tipo medici, però. Sì, assolutamente. Sì, era proprio Lino Guanciale che faceva Ercole. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, come faccio a stare sul palco? Il fatto è che ho diverse caratteristiche che, appunto, mi permettono di fare l'impensabile nonostante io sia timido. Per esempio, sono molto diretto ad esprimere i miei sentimenti. Non ho molti peli sulla lingua, eccetto quando lecco vagine. Chiaramente una battuta non succede mai. No, non è vero, è accaduto qualche volta ed è una squisitezza. Piatto gourmet. No, comunque, questa cosa permette cose del tipo che la mia migliore amica sa perfettamente che io me la scoperei, mi scoperei anche il suo ragazzo, il suo patrigno, la sua gatta. Povera Gingia. E tutte queste cose le sa nonostante io faccia fatica a guardarla negli occhi. E non perché le guardi le tette, quello lo faccio quando lei parla a me, ma quando parlo io ho la tendenza, cioè io faccio fatica a guardare negli occhi la gente, cioè io infatti sto guardando la finestra oppure guardo per terra. E quindi io le dico certe cose mentre guardo per terra, quindi potete immaginare la forza di dire a qualcuno: guarda, perché io effettivamente ti sbatterei a 90. Mentre appunto non hai nemmeno il coraggio di guardarne negli occhi. E queste sono contraddizioni, diciamo, da timido. Altre cose del tipo: ho avuto il coraggio di dichiarare il mio interesse a due ragazze che avevo conosciuto una settimana prima, tra l'altro al mio primo spettacolo comico, e ho dichiarato il mio interesse a tutte e due, ed erano nella stessa stanza due amiche, e stavo praticamente proponendo un threesome, quindi io non ho idea di come sia uscito vivo, sia per l'imbarazzo, non ho idea di come non abbia avuto un infarto e non ho idea di come mi abbiano sventrato, però ce l'ho fatta, quindi nel senso, gran risultato, lo devo mettere nel curriculum. Sopravvissuto ad una proposta di freestyle a due amiche. Di solito se ti va male rischi l'evirazione, se ti va bene invece la decapitazione, così almeno muori sul colpo e non devi rinunciare. Datemi una mano! Il fatto che debba incoraggiare le risate significa che sono un comico scadente, però tu nel senso... Tu la gatta! Beh, effettivamente, anche quella ha il suo fascino. Gatto arancione. Mm. Ok, devo riprendermi un attimo. Le rosse sono le peggiori, no? Arancioni, non le rosse. Non facciamo confusione. Ok. Perché un conto sulle rosse e un conto sulle arancioni. Appunto. Battuta terribile, va bene. Ok. E quindi, invece, la caratteristica che mi permette in questo momento di stare su un palco... è il fatto che sono una puttana delle attenzioni. Io adoro essere al centro dell'attenzione, a volte, mentre sono in università non mi devono cagare il cazzo, però se sto raccontando qualcosa, porca puttana, mi devi prestare attenzione. Quindi avevo qualcosa da raccontare, insomma. E quindi sono qua su un palco e questo perché ho un ego enorme, non solo quello, vi lascio immaginare cos'altro odio enorme, provate a immaginare, parte 2, siete un pubblico, un mosaico, accidenti. Niente, nessuno vuole immaginare cosa odio enorme. Il conto banca! Cistifelia! No. Quasi. Il mio pessimismo cosmico. Era bella. Un pubblico più banale avrebbe detto il pene. Però siete un pubblico... Giustamente. Dovrei dire che ho un pene normale, però nel senso, vi lascio invece immaginare. Ma ci sogniamo! Faccelo! Escilo! Magari quello in bagno. Comunque, il fatto è che quando appunto ho l'attenzione della gente, è come se mi stessero facendo un pompino. Il mio ego sta godendo tantissimo. solo che allo stesso tempo mi sto cagando sotto, quindi è come praticamente se, non lo so, qualcuno mi stesse facendo un pampino e allo stesso tempo avessi un virus intestinale. Non so se avete mai provato a masturbarvi mentre magari avevate la febbre, è più o meno un'esperienza simile. E quindi niente, se volete continuare questo meraviglioso pompino al mio ego, potete seguirmi su Instagram Void Reaching. Io già lo seguo perché giustamente sono una persona molto tumblerina e quindi Void Reaching, raggiungendo il vuoto, no? Ho già parlato del fatto che è il mio pessimismo cosmico. Quindi... Ricomincia. Quindi niente, adesso basta, credo che andrò, non so se ad impiccarmi o a masturbarmi, una delle due. Beh, è un'ottima pratica erotica, infatti, se non muori, cioè nel senso se cerchi di soffocarti e raggiunge l'orgasmo. Infatti, tu lo conoscessi. Sì, sì. Ci sono stati dei casi, infatti, di gente morta. Devo provare. Allora, a questo punto... sì, vado a provare. E... Andrea Padenti, Valerio... Grazie, Romualdo Grieco, un eroe! Romualdo, mi sei piaciuto? Academy! Academy! Purtroppo l'Academy per stasera... Tra l'altro, posso dire che ormai José, l'Academy ti saluta e buonanotte a tutti. Ma... Ormai l'Academy, Romualdo fra due serate è fuori dall'Academy. L'Academy lancia i giovani Academy e non è che vede tiene... l'ora che loro spicchino il volo. Assolutamente, è giusto così. Assolutamente, è giusto così. Quindi chi vuole far parte dell'Academy di Valerio Erò, scriva Valerio Erò e poi ci pensa lui a fare tutto. Andiamo avanti, avevamo una scaletta. Volete abbandonarmi tra due serate? No, non hai capito, non è che non puoi più venire, puoi venire quanto Romualdo, vuoi. Romualdo, te sarai sempre il benvenuto qui. Ma ti sembriamo due che ti dicono di no. E che ci saranno le serate pagate. E allora lì ti diremo di sì. Quando ci pagherai? No, pagate nel senso che tu... No, non è vero, ma secondo te... Ma ti truffiamo. Ma secondo te... Cosa devi fare col culo? Ma no, sempre con sto culo, sta sborra. Aria aperta, passeggiate in campagna, meno culo, meno sborra. Liberare i pensieri. Sì, ma non puoi far sempre sborre, cioè, amico mio, variare, sennò... Sai cos'è che manca questa serata? Sentiamo, cosa manca? Mancano i due signori che venivano sempre, che erano fissi. Che siano ancora tra di noi. Qualcuno ha notizie dei signori che venivano? Tu hai paura della nuova variante che dici, tac? Ma no, io non ho paura delle varianti. No, non tu, per i signori, intendo. Ma non erano i genitori di qualcuno qui dentro? Sono vivi, signori? Stiamo pestando una merda? No, sono vivi, stanno bene, ma figurati. Si sono solo rotti il cazzo. Ci sta. Peccato che non siano morti. Pensavo... I genitori muoiono, non è che ci possiamo... Prima o poi. Però tu stasera sei razionale. Fai la scaletta, mi fai queste uscite giustissime. Da uomo di mondo che ha capito la vita. Cosa ti sta... lo so, io so che tu stasera ci parlerai del senso della vita. Forse sì. Signore e signori, e allora la scaletta va a fare in culo, perché se c'è il senso della vita, aspetta, che cazzo facciamo? La presentazione, vai, falla tu. Che merita, signore e signori, lui è un comico che è sempre stato contro in ogni modo possibile, controcorrente sempre, ma quando si è trovato in una serata che era contro ha detto no, qui per essere contro devo essere responsabile. Signore e signori, l'unico uomo che è un passo avanti a tutti, Enrico Veronica! Grazie ragazzi, grazie, ciao, benvenuti. Bentornati! C'è stato un periodo della mia vita in cui io pisciavo sempre nel lavandino. Punto. Basta. Cioè, poi non c'è una battuta, ci tenevo solo a dirvelo. Tanto è stato un periodo anche abbastanza felice della mia vita. Ma parliamo di Natale. Allora, passato bene la Santissima Festa. Ora vorrei dire una cosa sul Natale a quella gente che in realtà è una moltitudine. Quelli che dicono, ma sai, noi non festeggiamo, io non festeggerei il Natale, perché dicono è una festa troppo commerciale, poi non credono tanto a Gesù e alla sua nascita. Dico, no, ma noi festeggiamo il Natale perché abbiamo dei bambini in famiglia, lo festeggiamo solo per lo stupore e la magia negli occhi dei bambini. Allora, vi do un consiglio, ormai per il Natale prossimo, no? Cioè, a sti bambini, allora, sotto l'albero, fategli trovare, non so, un pacchetto di nazionali senza filtro. Secondo me l'effetto stupore magia, cioè, ai massimi storici, cioè. E questo ormai è una roba per l'anno prossimo. Ormai questa è una roba, Però già che siamo in argomento buoni sentimenti, tra l'altro io sono stato seduto fino adesso, mi sono alzato, cioè, ho bevuto, non pensavo. Cioè. Non lo devo vedere, poi c'è, cioè, comunque la combo Romualdo più Antonio è stata bella, ma mi ha un po' segnato. Allora, stavo dicendo, i buoni sentimenti, c'è una poetica degli spot TV, delle campagne pubblicitarie in generale, che ci vogliono ricordare un po' che le multinazionali sono buone. Lo fa Amazon, lo fa l'IKEA, ce n'è una che in realtà purtroppo è stata poco nel circuito, non so se la danno ancora, mi sembra dell'IKEA, in cui non solo ci volevano convincere che le multinazionali sono buone, ma anche i vicini di casa. Era una bella vicenda, ve la ricordate? Cioè, toccava il cuore. C'erano questi vicini di casa che mettevano per i condomini, per i vicini di casa, in comune, nelle aree comuni, i libri che loro avevano già letto e riletto. Cioè, ci tenevano anche a far sapere che non li avevano letti una volta sola, Letti e riletti. Per farci capire che il vicino di casa, il condomino, è sempre buono, disponibile, gentile. Poi però, e qua parlo per esperienza personale, quando sei da solo con loro in ascensore e ti tiri fuori l'uccello, si girano tutti dall'altra parte. Fa finta di niente, lo sappiamo, anzi ti infamano, fanno la foto, poi ti infamano sul gruppo WhatsApp del condominio, ieri pomeriggio ero in ascensore col Veronica, scala A, ha tirato fuori l'uccello, allego foto, cosa facciamo? Allertiamo l'amministratore? Chiamiamo l'idraulico? Chiamiamo il fabbro? Ecco, perché loro pensano di risolvere tutto col fabbro. Sempre e comunque. E anche sta boiata l'abbiamo detta, direi. Ora, forse voi vi ricordate di me in altra veste, non penso. Allora, io qua c'ho un, lo vedete? Io c'ho qua il, c'ho il, c'ho il, ho mai parlato dei miei problemi cervicali? Della caldaia vi ho parlato, però, vero? Non parliamo della caldaia, per favore, no? Magari dopo. Ora, io di questo però vi ho parlato. Io vivo solo, stranamente, completamente solo da anni. E la mia sì, è una triste storia di abbandono e solitudine. Ed è assolutamente vero che quando si vive completamente soli dopo tanti anni... Fatemi venire in mezzo a voi. Cioè, in mezzo a voi qua però, non di più. Qua. Ah, mi sta riprendendo. Scusate, niente in mezzo a voi. Allora, quando si vive completamente soli da tanti anni, ed è assolutamente vero, si comincia a parlare da soli, non so, tipo, avete presente, tipo Norman Bates, no? In Psycho, Norman Bates parlava con la mamma. Io in realtà mia madre, cioè, non ho bisogno di appagare le chiacchiere materne, perché mia madre è l'unica che sento ogni sera, ci sentiamo la sera, le telefonate con mia madre sono sempre uguali, parliamo del morto del giorno, del fatto di cronaca ultimo, cioè praticamente le telefonate tra me e mia madre sono tipo Facebook, sono tipo un social network. L'unica differenza è che quando ci sfanculiamo non ci diamo del lei, per adesso. Ma è un attimo che si crea il distacco anche con mia madre, io me lo sento, cioè proprio per l'Alzheimer mio, tra l'altro. Allora, siccome io sono appagato dal punto di vista delle chiacchiere materne, mi sono inventato un alter ego moglie, ma siccome non sono tanto abituato a parlare con una moglie, chissà perché io ho mutuato questi discorsi con la moglie in maniera squallida, tipo quel cabaret da prima serata Rete 4 o Canale 5 o Rai 2 o mettetele voi l'emittente, in cui marito e moglie si dicono cose tipo hai spostato la macchina che c'è il lavaggio strada, oppure domenica dobbiamo andare a pranzo da mia madre, ricorda di comprare i pasticcini, è una roba squallida, ma è così, cioè io immagino che parlino così marito e moglie, è vero, io ho avuto delle relazioni, non lo do a vedere, ero un uomo insospettabilmente gagliardo, affascinante quando ero più giovane, relazioni anche lunghe, quasi matrimoniali, convivenze, però cioè, cosa potevo dire a una donna che conviveva con me? Cioè, ma vi rendete conto di come può essere conciata una donna che convive con me? Cioè, è chiaramente una malata di mente o ha perso una scommessa, ma di quelle toste, eh? Ha perso una scommessa, ma di quelle toste, tipo, guarda, la scommessa è così. Se vinci tu, ti do a mia figlia undicenne libata da immolare al sanguinario dio Moloch. Se vinco io vai a convivere con Enrico Veronica, cioè scommesse di quel calibro, insomma. Allora io chissà perché mi immagino questi discorsi tra marito e moglie squallidi, proprio tipo sitcom in prima serata, e allora quando vado in bagno e piscio, quel periodo in cui non pisciavo nel lavandino, e poi torno nel salotto, poi casa mia in realtà è tutto attaccato, bagno e salotto, poi mi dico, sei andata a pisciare? Non hai tirato giù la tavoletta? Che poi io, tra l'altro, anche di questo ho già parlato, ho anche grossi problemi della prostata, eh? Cioè, quindi questa storia della tavoletta me la ripeto ogni quarto d'ora. Ma non mi entra in testa. E ora andiamo a chiudere col sociale. Avete notato voi che se vi telefono tra le 17 e le 22 è solo per rompervi i coglioni? Ora, non mi riferisco ai soliti call center o quelli della caldaia che vi premono per dirvi che sta scadendo la revisione annuale, non parliamo della caldaia. Io però, vedi, non è giusto, perché quando c'era Romualdo Grieco, almeno a me è Enrico Veronica che gli faceva da sponda. Perché io non merito un Romualdo Grieco quando sono sul palco? Eh? Qui c'è un passo avanti a tutti, come ha detto Valerio. Troppo avanti. No, tra il 17 e il 22 vi chiamano solo rompicoglioni, non solo i call center. Vi chiamano i colleghi di lavoro, per chi lavora, che chissà perché alle 7, alle 8, alle 9 hanno bisogno di un consiglio di lavoro. Gli amici che devono perfezionare delle splendide feste di compleanno per gente che non vedete da 7 anni, o per perfezionare ancora peggio la pizzata rimpatriata di quelli della terza F, o almeno con quei pochi della terza F che sono sopravvissuti all'eroina e al suicidio. Quelli vi chiamano tra le 5 e le 22. In realtà poi vi chiamano anche i soliti parenti, la mamma l'ho già citata, figli, cugini, zii, mariti, fidanzate, diciamo che ho praticamente citato tutte le categorie di telefonatori, a parte due punti, e qua inizia un altro periodo, i maniaci sessuali, quelli che hanno sbagliato numero, i telefonisti delle BR che ti chiamano per dire dov'è il cadavere di tuo padre, i rapitori che ti chiamano per sapere se hai pagato il riscatto per tuo padre, è un padre con una vita abbastanza movimentata, oppure ti chiamano quei medici per dirti che sono arrivate i risultati di certe analisi e sarebbe meglio parlarne di persona. queste ultime categorie che ho citato rispetto alle altre sono una bella boccata d'ossigeno, però. Cioè, perché almeno spezzano un po' la monotonia, no? Voi mi direte che voi siete vispi, Henry, cioè, dai. Questi ti possono chiamare tra le 5 e le 10 come in qualsiasi altro orario, giusto? Allora riformulo. Avete notato che se vi telefono è solo per rompere i coglioni? Perché siamo così noi esseri umani, siamo così, il genere umano è così. Intercede tra di loro così, rompendosi i coglioni, più forte di noi. E ora vado a chiudere in una maniera che non vi aspettereste mai. Un passo avanti a tutti. Ah, ragazzi, potremmo chiudere adesso. Dove vai? Tu dopo Veronica te ne vai? Rispondi, dove vai? No, no, che scusa, non volevo fare il carabiniere, hai ragione. Che cazzo voglio? Puoi anche dirmi. Secondo me lui picchia forte. Si vede, no, ha ragione. Oh, il baffo! Ma perché, scusami, ma te perché mi hai ricordato il baffo? Me ne ero dimenticato. T'hai capito, stasera te vuoi salire sul palco il baffo? No, t'ha detto non ti conviene stasera, come tu hai sentito, voglio salire sul palco. E proprio non c'è neanche una minima assonanza. Cos'hai detto? Non ti conviene stasera. M'ha fatto un segno brutto l'omino pacifico nel gruppo. Ha detto stasera c'ha i cazzi. Una ragazza si è messa il giubbino e se ne sta andando. Cioè, per farti capire. Ma in tutto questo, se lui c'ha i cazzi e lei ci ha chiamati, chi è la stronza? Sai che non ho capito il quesito? Scusami, è molto più stronza lei che noi. È lei che l'ha chiamato in causa. Dice, cioè già non ti ha rifatto un nemico anche lei? Cioè, perché? Ma lei era una delle poche che ancora mi godeva. Ah, stasera equilibrismo, bicchiere e asta in mano. Ragazzi, qua... Fa questo. Questo è vaudeville fra un po'. Io ho studiato da Grotowski. Lo so. Che dove ha la scuola Grotowski? In Cilento. Ah, quindi tu facevi Piacenza? Uno sbatto. A cazzo ti credo. Ma su e giù? Sì, andate e ritorno. Interessante, facciamo 10 minuti, grazie. Facciamo 10 minuti su questi tuoi viaggi da Piacenza al Cilento. Un applauso al Federico Balzaretti dell'Exalger. Almeno tu hai un nome e cognome, anche se non è il tuo. Ma posso dirti quantomeno non sei ragazzo o ragazza. Posso dirti che lui è l'unico che mi sta simpatico dell'Exalger. Vabbè, quanto mi sta sui coglioni questo locale, ragazzi. Ma posso dirti che se noi chiediamo loro tre tu non stai simpatico a nessuno? Dici? Ma secondo me, guarda, vi sta simpatico Valerio? C'è un plebiscito. Unico, ho sentito unico amico che ho. Ed è quello che ti taglierà la gola in quel vialetto buio fra un'oretta e mezza. Ma sai che alla fine si insulta solo ciò che si ama. Sì. Tu hai sempre la risposta pronta, molli mai. È incredibile. Ma è per questo che lei ti voglio bene. Sei veramente molto inquietato da quello che stai dicendo. Sì. Lei sembra una persona che non sta vivendo bene questa serata. Non tornerà mai più. Ma nel senso che non arriverà a casa stasera? Chi lo sa? Io penso che da domani inizierà a vedere un professionista, anche se non ci aveva mai pensato prima. Ed è giusto così, perché bisogna andare dai professionisti. Manca poco, ci sono ancora, credo, 3 comici, ma stasera siamo incredibilmente corti, che poi non è che dobbiamo finire. Ma perché siamo corti? Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo, baby. Guardate. Ma di solito a che ora finiamo? Mezzanotte. Ci abbiamo 40 minuti a riempire. Sì, ma Laura, vuoi far mezz'ora? No, ha detto perché devo fare mezz'ora? Per quale motivo dovrebbe avere voglia di fare mezz'ora? Ma sai, c'è il giocatore che onora la maglia anche quando la dirigenza non paga gli stipendi. Esatto. Il Pisa di Gattuso. Già ne hai convinto uno con la fascia da capitano. Cosa facciamo? Ora contiamo qualcosa io e te o chiamiamo il prossimo? Vedi te, allora io chiamerei il prossimo personalmente. Perché non hai niente da raccontare? Perché non voglio fare un cazzo. Allora sai cosa facciamo? Chiamiamo il prossimo e poi dopo faccio io o fai tu? Volete me o Valerio dopo? Tutte e due! Dovete partire da Valerio! Non è avuto un gran successo. Ma infatti probabilmente è meglio che non faccia niente e ci andiamo fuori dal cazzo. Quindi stanno dicendo meglio che la serata finisca chiamiamo il prossimo, che però aspetta, non mi ricordo il nome, perché mi sarebbe piaciuto chiudere con il filotto femminile. Allora si chiamava, te lo dico

Quando la mia ragazza mi sgama che mi gratto i coglioni, io le rispondo: guarda, signorina, io sto solo risolvendo la questione israelo-palestinese. Anzi, ci sarebbe bisogno di un aiuto internazionale, non è che vuoi succhiarmelo? Comunque, a parte gli scherzi, se l'effetto farfalla fosse davvero reale, se i matematici avessero ragione, a questo punto che ne sappiamo, magari l'unico modo per aiutare i bambini in Africa non è fare una donazione, ma farsi le pippe. Cosa che, se fosse vera, significherebbe che io da solo ho salvato il Botswana. Pensate quanto sarebbe bello se l'unico modo che esistesse per aiutare i bambini in Africa fosse mettere i like alle fighe su Instagram. Cosa che, se fosse vera, significherebbe che... Vabbè, forse sto esagerando, farei meglio tornare a ciò che so fare meglio. Le pippe. Anche perché alla fine questo pezzo non è neanche merito mio. È stata solo una farfalla. Federico Comella, giusto? Yes, perfetto, un grande applauso. Vabbè, sono solo io perché vi racconto una storia io, così intanto chi deve andare a prendere fiato, fumare, può fare. Questo è il momento meno interessante del tutto. Vabbè, lo dico così. Tanti, tra l'altro gente si sta alzando, quindi... No, no, puoi fare, l'ho appena detto. Subito impaurito, prima ne ho trattato uno... Tu vuoi andare alla veneranda età di... Hai deciso di iniziare a fumare questa sera. Aspetta, bevo. Vabbè, stasera, visto che ci sono tante donne, racconto... Poi sono sempre quelle le cose che uno racconta, gli errori che una persona può fare con una donna, perché ho quasi 40 anni io, e se c'è una cosa che ho imparato in quasi 40 anni di vita è che tendenzialmente nella vita di un uomo, quando c'è un errore, di base c'è di mezzo una donna. Poi non per forza di cose è colpa della donna o è a causa della donna, ma di base c'è di mezzo una donna. E vi racconto questo errore, mio tra l'altro, che è successo durante il ponte del 2 giugno scorso, quindi ormai più di 6 mesi fa, ed è successo in Liguria. Liguria, bellissima regione, per la precisione è successo a Spotorno, non so se lo conoscete, è un delizioso comune di 10.000 abitanti che sta tra Finale Ligure e gli incidenti sulla Serravalle. Praticamente la mia compagna, con la quale stiamo insieme da ormai 7 anni, ha una seconda casa lì di famiglia, quindi ogni tanto andiamo a Spotorno. Questo errore, oltre a contemplare la Liguria, contempla anche una frase celebre. Adesso non voglio dire delle donne, ma quantomeno della mia compagna, cioè sempre in 40 anni di vita. Se c'è una cosa che ho imparato è che quando una ragazza, o quantomeno la mia ragazza, ti dice andiamo fuori a cena, lei contempla solo proprio l'atto di mangiare in sé. Perché cioè la telefonata, la ricerca dei ristoranti, la prenotazione e il conto, cioè tutto quello che sta prima e sta dopo, di solito non è contemplato. Gli uomini qua fanno silenzio, quindi a voi probabilmente va meglio. Ma non vedo neanche grandi urla di giubilo, quindi forse non vi va meglio, ma forse siete solo dei senza palle. Tu ridi, annuisci, la tua vita com'è? Dai segni di vita, la tua tattica cos'è? Fingerti morto? Non dice, non risponde, sì, si finge morto. Perfetto, dovrei fare anch'io come fai tu. Comunque, questo errore in Liguria che contempla una cena, succede che la mia ragazza mi dice guarda andiamo in Liguria, ponte il 2 giugno, un mese prima, andiamo a mangiare in questo ristorante, non faccio nomi e cognomi per non fare pubblicità, andiamo a mangiare, mi raccomando Andrea, prenota, prenota, prenota, perché se non prenotiamo non troviamo posto. Io dico prenoto, passa un mese, arriva il giorno del pranzo e sì, e entrambi, io e la mia ragazza scopriamo entrambi che non abbiamo il tavolo. Lei lo scopre perché era convinto che io avessi prenotato, io lo scopro perché scopro da lei che quel giorno dovevamo andare a mangiare. Quindi di base in un minuto tutto crolla. Si incazza, urla, bestemmia, sei uno stronzo, sei una testa di cazzo, non mi ascolti, fumi 1000 canne, ha ragione. Mi insulta, va avanti 20 minuti, non c'è niente da fare. Al che, dopo aver preso insulti per mezz'ora, decido di prendere in mano la situazione, perché a questo punto non c'è più niente da perdere. E anche se è praticamente impensabile, un mezzo miracolo, la trascino al ristorante, senza prenotazione. Arriviamo là e bucio di culo, una coppia disdetto all'ultimo. Cioè non si è proprio presentata, questi qua, in quanto liguri, non è che stanno lì a aspettare tanto. Sono arrivati 2 nuovi, li hanno buttati dentro. Quindi, come in un minuto tutto è andato a monte... Nel restante altro minuto tutto si è aggiustato. Siamo lì, bellissima trattoria in riva al mare, c'è quindi proprio una cooperativa ittica, pesce freschissimo, tutto molto rustico, riva al mare, il proprietario ligure che ti tratta pesci in faccia. La Liguria, cioè quello che ci aspettiamo quando andiamo in Liguria. Però la situazione è ancora attesa, non abbiamo ancora trovato, come dire, la pace tra noi due. Siamo lì seduti al tavolino in riva al mare, arrivano gli antipasti, pesce buonissimo, pesce freschissimo, c'è un po', ancora un po' di tensione, la mia ragazza mi insulta, vaffanculo, cretino, fumi mille canne, ha ragione, non capisci un cazzo, beviamo del vino, andiamo avanti, arrivano i primi, primi col pesce, buonissimo, tutto quanto, mi insulta, coglione, questo, quell'altro, però lì la lascio fare, perché sempre in 40 anni di vita ho imparato che tendenzialmente le donne dopo un po' che si sfogano si calmano. Non so se funziona con tutte, ma di solito io non voglio prendervi e mettervi tutti in un recinto perché siete tutte uguali. Però la statistica molto spesso ci fecca. Quindi comunque ai primi si inizia ad avere un minimo di calma, perché ripeto, il panorama è bello, il cibo è ottimo, dobbiamo pur comunque essere contenti di aver trovato sto tavolo nella sfortuna del mio errore, che poi non è sfortuna perché è un mio errore, ma mi piace chiamarla sfortuna. Siamo lì, siamo i primi, va tutto bene. Arrivano i secondi, grande piatto, fritto misto, verdure di contorno, zucchine in carpione, buonissime. Ad un certo punto la pace è fatta, cioè davvero ci teniamo la mano, grandi occhiate, grandi brindisi. Però succede quello che non doveva succedere. E qui si tratta dell'errore. Perché ad un certo punto dagli altoparlanti dello stabilimento, perché eravamo in riva al mare, parte senza nessun motivo Notti Magiche. Non so se la conoscete la canzone. Esatto. Vedo Bennato, Nannini, è l'inno dei mondiali Italia 90. Parte sta canzone. Io bevo un bicchiere di vino. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana. Finito il ritornello mi sono messo a piangere. Di botto, dal nulla, inizio a piangere, proprio piangere tantissimo, guardo il mare, continuo a piangere, bevo bicchieri di vino e mia ragazza mi guarda e non capisce, dice: ma perché ti stai mettendo a piangere? Cos'è successo? Fino a un minuto fa eravamo tranquilli, andava tutto bene. E gli dico: no, guarda amore, non c'è problema, niente, semplicemente mi è venuto in mente il gol di Schillaci contro l'Austria. Lei mi guarda sempre più stranita perché non capisce, siamo a pranzo, abbiamo risolto una situazione, perché se senti una canzone inizia a piangere, perché ti viene in mente il gol di Schillaci contro l'Austria? E allora mi fa la domanda che davvero lei non mastica di calcio, lei di calcio non sa molto, sì, sa chi è Schillaci, sentito dire, ma mi fa la domanda che non mi doveva fare, mi chiede: ma perché, cos'è successo quella volta? L'errore, un attimo, devo bere. Adesso è il momento bello. È un pathos che non verrà giustificato. Tra l'altro potrei non essere alla pagina giusta. Infatti non sono alla pagina giusta. Posso fare? No. Ok, ci siamo signori, non vedo un cazzo. Ma parte la radio cronaca ufficiale. 9 giugno 1990, Stadio Olimpico di Roma, ore 21. Ho perso la riga. Partita difficile, tosta, maschia, dove il bel gioco dell'Italia, l'Italia di Roberto Baggio, Vialli, Bergomi, Baresi, Maldini, Ancelotti, non riesce a concretizzarsi contro un'Austria molto tosta, molto rude, molto forte fisicamente. Stiamo parlando di austriaci di 2 metri, degli armadi a 2 ante, quindi stiamo parlando di gente molto tosta, i nostri sono piuttosto piccolini, mingerlini, non eccelgono dal punto di vista fisico. Al minuto 75 il CT Azeglio Vicini, che è l'allenatore dell'Italia, è preso dallo sconforto. Abbiamo preso un palo e siamo 0-0. Noi dovremmo battere l'Austria. Ma al minuto 75 il CT Azeglio Vicini, preso dallo sconforto, decide di giocare l'all-in. Gioca il tutto per tutto. Chiama dalla panchina un ragazzo di 25 anni. Un ragazzo che si chiama Salvatore Schillaci e gli dice di entrare in campo. Schillaci, che è in panchina, guarda incredulo il mister, guarda Azeglio Vicini con gli occhi fuori dalle orbite e gli dice: mister, è sicuro, ma sta dicendo a me. Schillaci non è convinto di entrare in campo, non perché non abbia fiducia in se stesso, ma perché fino a un anno fa giocava in Serie B ed è vero che nell'ultimo anno è stato capocannoniere alla Juventus, ma si sente ancora un giocatore di B, non si sente pronto, ma Azeglio Vicini gli dà fiducia e lo butta in campo. Ebbene, al minuto 79 Gianluca Vialli crossa dal fondo destro di campo un cross delizioso verso l'area di rigore, dove tra due difensori di 2 metri salta lui, Salvatore Schillacci, detto Totò. Palermo, 1° dicembre 1964, 1,75 m d'altezza per 70 kg di terza media, che salta più in alto di tutti, quasi in cielo, tra due difensori austriaci di 2 metri, prende la palla di testa e la butta in rete. Gol, 1-0, vinciamo noi e vinceremo noi quella partita. Finisco la radiocronaca, bevo un bicchiere di vino, guardo l'orizzonte, guardo il mare, mi asciugo le ultime lacrime perché è stata una radiocronaca intensa. Guardo la mia ragazza che fino a quel momento pendeva davvero dalle mie labbra, lei non mastica di calcio, quindi era rapita da questa storia. Mi guarda e mi fa: ma amore, ma scusa, ma tu nel 1990 quanti anni avevi? E io 7, anzi 6 e mezzo per la precisione. E ti ricordi tutta la partita? E io ogni singolo dannato minuto. E lei: e come cazzo hai fatto a dimenticarti di prenotare il ristorante? Signori e signori, è stato un piacere condividere con voi questo mio errore. La scaletta va avanti, mancano le ultime due, la quota femminile, per almeno pareggiare con gli errori di un uomo medio. Vedo però arrivare il mio amico, il mio compare dalle retrovie. C'è un compare. Un compariuccio, un compagno di merende. Vuoi dire qualcosa prima? Sì, sì, neanche dov'è quello lì. Signori e signori, è con immenso piacere che chiamo Laura Formenti. Eccomi, buonasera, buonasera a tutti. No, farei due appunti prima di iniziare, mi tengo qua il foglietto perché non mi ricordo cosa devo dire stasera. Due appunti prima di iniziare: innanzitutto non si va mai a cena in Liguria, Andrea, non si va mai a cena in Liguria, a parte casi molto specifici, perché tu lo sai che i liguri ci odiano. E questa cosa l'ho scoperta in particolare una volta che sono stata a fare una cena con Delitto con una compagnia milanese in Liguria, ed era pieno, cioè, ma non, cioè proprio era soppalcato di gente, c'era gente ovunque, e lì ho capito che i liguri arrivano a spendere più di 40 euro pur di veder morire un milanese, capito? Non sono tirchi, loro sono oculati. Seconda osservazione, basta con questa cosa delle donne, ora stasera una donna, le quote rosa della serata. Cioè, è anche brutto sentire continuamente, come dire, sottolineare la nostra disabilità. Credo che, no, si possa anche evitare. Perché la verità è che ultimamente poi noi donne abbiamo anche un sacco di vantaggi, no? Stasera ci sono un po' di donne nel pubblico, ammettiamolo, siamo sempre qua a lagnarci, perché non ci trattano male. No, non è vero, abbiamo anche dei vantaggi, ci portano i fiori anche quando non siamo morte, sì, ci possiamo mettere delle pesanti collane d'oro senza sembrare dei rapper, possiamo salire sulle scialuppe di salvataggio anche prima dei bambini nel caso di un naufragio, perché prima le donne e i bambini, capito? Se siete durante un naufragio potete dire: scendi moccioso, vaffanculo, è il mio posto, vai, vai, piccolo bastardo. Perché no, ci sono delle priorità, prima le donne e poi i bambini. Abbiamo un sacco di vantaggi, diciamo la verità, soprattutto ultimamente, no, che il femminismo va forte, la nostra vita è diventata un enorme parco a tema in cui ovviamente noi entriamo gratis, no? E abbiamo anche all'interno di questo parco quei pupazzoni che ci sono nei parchi a tema, quelli... I maniaci, sì, i maniaci. Ci sono questi maniaci che ci... Ma non so se... No, perché io lo so che poi vi devo... Molto spesso i miei amici maschi mi dicono: oh, ma dai, ma che palle, oh, sta roba, ci sono i maniaci. Ma dai, alla fine se ti abbordano per strada è pure carino. Sì, perché voi vi immaginate Diletta Leotta che ti insegue la sera in microbichini, no? Così. E invece no, io mi trovo quello che me lo appoggia in metropolitana. Cioè, ti sembro un apposito sostegno io? Oppure quelli che ti mandano le foto, quelli che ti rimandano le foto zozze su internet, i maniaci, quelli che io chiamo i maniaci in smart working. no? Che ti mandano tutte queste, non so, metti, io non sono una che mette tante foto, però non so, una donna mette una foto in bikini e ti arrivano una valangata di foto. Che cazzo ci devo fare con tutte queste foto di peni? Cazzi's Got Talent! Ma soprattutto, non so, sarà capitato anche a qualcuna di voi, non so, a me capita spesso di finire le serate un po' tardi, torno a casa spesso da sola, magari verso la macchina, e mi è capitato più volte il tipo che ti si affianca con la macchina, abbassa il finestrino e restando in macchina ti dice: ehi, ciao bella, ti voglio conoscere. Sali, dai, sali in macchina. Oh, non avere paura, giuro, non sono un maniaco. Beh, se non sei un maniaco allora. Ma esiste più una frase da maniaco di non sono un maniaco? Cioè, mi immagino Jack lo squartatore che andava dalle, no, dalle vittime. No, perché per correttezza volevo dirti che se vuoi salire, però guarda, sono un maniaco, ecco. No, ci tengo a dire perché la correttezza è importante. Non sono un maniaco. Che cazzo di frase è non sono un maniaco? Se tu dici una frase come non sono un maniaco, stai facendo qualcosa molto da maniaco. Come prosegue la frase? Non sono un maniaco, lo giuro sulle foto dei piedi di mia madre. Non sono un maniaco, non fare caso alle urla che senti dal bagagliaio. Non sono un maniaco, giuro, mi è stato detto migliaia di volte. Invece anche di... Ma mi è capitato sia di giorno che di sera... Quelli che si masturbano, che poi è una cosa molto anni 90, quello che se lo tira fuori in giro, eppure ci sono ancora, no? A me è capitato nei parchetti, mi è capitato dietro i cassonetti della Caritas, una volta uno che è spuntato da una vecchia cabina del telefono, probabilmente era veramente lì dagli anni 90 ancora, no? Ma il meglio è stata proprio il top, è stata una mattina, stavo andando a lavoro, saranno state le 7 del mattino, e mi sento chiamare da una finestra. C'era uno che si masturbava dal balcone. Alle 7 del mattino, a novembre. Ma lì non sei un maniaco, lì sei il Cristiano Ronaldo della masturbazione. Sei un cazzo di genio. Io mi potevo solo... Ma secondo me non era un maniaco, lì era probabilmente un influencer... Che, no, sì, uno di quelli tipo: ciao ragazzi, questa mattina mi sono svegliato, ovviamente frullato proteico, ho fatto 4 flessioni, poi sono uscito e per salutare il sole saluto il sole con il cazzo. Perché non riesco a immaginarmi nessun altro motivo perché uno debba fare una roba del genere, no? Non credo di essere l'unica che a volte... Non so, valuto come mi vesto in relazione a quanto voglio farmi rompere le palle, no? Dico, questa mattina metto questa gonna da 4 fischi e 2 pacche sul culo, oppure metto questo burka da ciao bella, no? Perché un ciao bella, dai, quello non si nega a nessuno, ok? Ciao bella comunque ci sta, dai, no? Laura, madonna, che palle, no? Perché, no, veramente, non è come Diletta Leotta in micro bikini, come spiegare come ci sentiamo? È un po' più tipo come se usciste, immaginate, come se usciste la sera in un quartiere a Quarto Giaro, con un iPhone qua, un iPhone 14 qua, no? Girando per Quarto Giaro la notte dicendo: oh, altissima risoluzione, l'ho pagato parecchio ma ne valeva la pena, no? E non abbiamo neanche bisogno, anzi è peggio perché se la sera qualcuno mi aggredisce io non posso dire: guarda, prendilo pure, non mi fare del male, ti lascio la vagina qua. Purché non mi fai del male, non lo puoi fare, primo, perché si sporca poi per terra, ma poi soprattutto quanto è imbarazzante poi, che ne so, andare dal commissariato a dire: guardi, scusi, ero a Quarto Giaro, stasera mi è capitato e mi hanno rapinata, mi hanno portato via una vagina, era... No, guarda, lo so che sembra una storia strana, però era un modello un po', magari un po', cioè non era proprio un modello contemporaneo, un po' vecchio, cioè, oh, però non è che dobbiamo stare a giudicare, io è più il valore affettivo, diciamo, della mia, cioè, che poi c'avevo dentro tutti i miei ricordi, era, c'ero piuttosto affezionata, ecco, diciamo, a tutto quello che c'era. E, no, e il carabiniere che ti dice: oh, no, da che questa roba anche un po' brutta del carabiniere del sud. No, facciamo. Com'è che sarebbe un carabiniere milanese? Uè, allora, ha perso una vagina a quarto giaro. Guardi, trovare una vagina a quarto giaro. Un po' come trovare una vagina a quarto giaro. Ma come andava in giro? Ce l'aveva a cover? A cover aveva una cover corta, una cover un po'... se mi mangi a quarto giaro con la cover corta... Che poi guardi, no, io devo dire, noi ci proviamo a cercarla, però probabilmente, sa come succede con le vagine al giorno d'oggi? Probabilmente l'hanno già smontata e portata in qualche paese dell'est. Se ne va bene, forse lo troviamo ancora il clitoride. Beh, minchia, sarebbe già tanta roba, voglio dire, no? Io conosco gente che in 2 anni non l'ha mai trovato. No, adesso, poi... No, non è che poi vorrei fare sempre le lagnanze, per carità, appunto, come dicevo prima, perché... Anche io ho i miei difetti, anche c'è una cosa che mi imbarazza un pochino dire. L'altra sera stavo con un ragazzo, volevo invitarlo a casa, e solo che ho io questo problema imbarazzante, tutte le volte che mi capita questa cosa, che io ho un letto a soppalco. C'è qualcuno... Che bello! Tu non hai un letto a soppalco. Se l'hai avuto, non potresti dire che bello. Allora, per chi non lo sapesse, cos'è un letto a soppalco? Per i ricchi in sala, un letto a soppalco è tipo un letto come si dice, a castello, ma per gli adulti. Per i poveri in sala, volevo dirvi, esistono anche letti normali, ok? Un letto, ed è imbarazzante quando tu devi invitare uno a casa, però devi spiegargli che... Cioè, che hai un letto a soppalco, no? La devi prendere un po' larga, devi cercare di anticipare un po' la cosa, devi avvisarlo prima, ma come fai? Lo prendi larga dicendo ciao, volevo solo chiederti, ma tu hai mai, cioè, hai mai fatto un corso di sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche ce le hai? No, perché è veramente imbarazzante, no? Questa cosa del letto a soppalco. Non mi ricordo cosa devo dire, voi fate un applauso. Perché? Adesso ci sono, perché l'avevo già detto la cosa che pensavo che dovevo dire, niente. No, perché per me, allora, io ho avuto 3 case a Milano, tutte e 3 con letto a soppalco. Per me il letto a soppalco è il simbolo di Milano. Perché diciamo la verità, Milano è una città incredibile, bellissima, la città della moda, del business, della televisione, insomma, diciamo la verità, la città perfetta per sentirsi inadeguati, no? E siamo tutti inadeguati, facciamo questi lavori, lo stand-up comedian, facciamo il social media manager, il designer, il chief account, andiamo a questi aperitivi top, e poi la sera torniamo a casa nei nostri loft bed, che sono i cazzo di letti a soppalco, che sono delle palafitte del neolitico a cui accedi solo con una scala a pioli, perfette, bellissime, super cute, romantiche, se sei un cazzo di scoiattolo che deve portare delle ghiande e nasconderle sotto un cuscino, ok? Fanno schifo i letti soppalco. E il motivo per cui a Milano è piena di questi letti a soppalco sono fondamentalmente 2. La prima è che Milano costa, non so se ve ne siete accorti di questa cosa, costa tutto caro. Non ve ne siete accorti? No, perché io invece sono avanti. No, a Milano costa tutto carissimo. A Milano il poliamore è una necessità, non è una moda. Sì, perché l'unica coppia che può permettersi un bilocale a Milano è una coppia di almeno 8 persone. Ok, prima cosa. Seconda cosa, a Milano non abbiamo più spazio, diciamo la verità. E invece di fare una di quelle cose sensate, tipo una cazzo di guerra di espansione, piuttosto che annettere Varese o Cinisello Balsamo, come dovremmo fare, noi ci espandiamo in verticale, mettiamo i boschi in verticale. Io ho visto dei bilocali su 3 piani, non sono case, sono dei cazzo di tubi delle Pringles. Tutto così facciamo, e quindi abbiamo i letti a soppalco, e quindi tu sei costretto a convincere delle persone a giacere con te su delle palafitte. E soprattutto devi riuscire a convincerli a salire prima di te. perché tu puoi avere la grazia di Roberto Bolle, puoi essere la persona più leggiadra del mondo, ma se devi salire nudo su una scala a piodi per salire su un letto a soppalco visto da dietro, sembrerai sempre un enorme troll peloso che sale su di una scala di una biblioteca per raggiungere una pergamena millenaria. Ed è imbarazzante anche quando stai giù, dici: ah, hai finito! Perché quando devi trombare su un letto a soppalco ti devi mettere cazzo dietro, in fila come a Gardaland? Perché l'alternativa è peggio. L'alternativa è sali e ti spogli sopra così. Un gufo praticamente, o mia madre quando guarda un video in orizzontale sul telefono. Ok? Fatelo sto applauso, fate. Cioè, come cazzo ti spogli così? Che cazzo sono Houdini? Vengono signori, vengono, toglio gomagliette reggiseno senza piegare i gomiti, cazzo. Non riesci neanche a spogliarti, figurati a fare alto su un letto a soppalco. Amore, giochiamo al dottore. Sì, certo, possiamo giocare all'attack. Io ve lo giuro, ho pensato per degli appuntamenti speciali che avrei potuto, tutto sommato, anche mettere un materasso, quelli ad aria, un materasso gonfiabile al piano terra. Ci sono quasi, non ti preoccupare. Lo faccio solo perché mi piaci veramente tanto. Ed è inutile che fai una questione, non ti sto discriminando. Non è perché sei su una sedia a rotella. E comunque le carrucole Amazon me le spadiva domani. L'unico vantaggio di avere un letto a soppalco è che nel caso in cui, nel dubbio, no, magari ci stai ripensando mentre ormai sei riuscita a salire in cima al letto soppalco, puoi sempre dire a lui: comunque, chi l'avrebbe mai detto, che regge così bene, mi erano avanzate due viti. E poi c'hanno quei nomi, questi letti dell'IKEA, che io me lo chiedo sempre: ma secondo te questo letto sbadabam reggerà? Grazie. Laura Formenti! Sempre brava! Com'era Laura la pressione per esibirti di fronte a un tuo fan? Vedi, non ce la faceva, Ce la fa! Romualdo! No, ma è giusto così! Chi fa parte della crew Formenti faccia un urlo! Attenzione Enrico. Sei il solito maschilista. Attenzione. Eravamo andati così bene e tu. Attenzione. Laura, non è vero che io quando. Notte calda in Viale Tibaldi. Quando ti ho detto di sì, quando mi hai chiesto di venire a provare questo pezzo sul palco, non è vero che io ho pensato belle gambe. Smentisco. Che schifo che fai. Grazie. Sempre di più. Ci lavora da anni. Sono sordo, non so. Tanto tra tutti quello che hai, anche quello. Pensa a te. Pensa a te alla sfortuna alle volte. No, mi sono impegnato. Sì. Sono partito con dei punti a favore e poi mi sono impegnato. Cioè, per dire, per far schifo così tanto a livello fisico. Quant'è che ci lavori? Ma quante anni, ore al giorno? Non è tanto quante ore, ma l'intensità ci metti. Certo. Perché è sempre come fai le cose, non quanto le fai. Esatto. Ma io mi sono disteso. Ma sta finendo, c'è l'ultima comica. Ricominciamo. Ma vuoi fare una controchiusa? Cioè, facciamo l'ultima comica e poi te che controchiudi. Sì. E se rimane qualcuno vivo, all night long. All right. Lei è sempre... Aspetta, mi ha chiesto una cosa. Prendi tempo che faccio questa cosa. Chi è che ti ha chiesto una cosa? La persona che si deve esibire. Non la ragazza. Ma chi? La ragazza chi? Chi è? Lei. Lei là, no. Lei. Cos'hai? Cos'hai chiesto a Fadenti? No, lei non abbiamo mai parlato. Diccelo. Dici, cosa vuoi dirci? Sei sicura? Lei è timida, ma te sei stronza. È il tuo momento. È evidente. Così dovrebbe andare bene perché è più alta di me, quindi... Forse troppo. No. Ma tu... Ah, è vero, c'era scritto sulla scaletta. Bravo. Esatto, l'ho scritto. Enrico! No, no, ma io voglio solo sapere. Voglio solo sapere se le stai adescando, qual è lo scopo. Io quello voglio chiedervi, a fine serata fate la mucchiata oppure 2-2? Cioè, scusami, fino adesso tutto bene, a mucchiata però ti manda fuori di testa. Pochino, scusami, ma mi sento di criticarti. È la risposta di chi farà una mucchiata stasera. Allora Dio li fa e poi li accoppia. Tutti, c'è posto nella mucchiata stasera. No, buoni sentimenti. Allora vado a chiudere. Chi vuole stasera divertirsi probabilmente e o con una mucchiata a Viale Tibaldi. Per tutti gli altri, chiamiamo l'ultima comica? È il suo tempo, è il suo momento. Signore e signori, abbiamo alzato anche l'asta per lei, come ci ha richiesto. È arrivato il momento della chiusura. Silvia Conti! Grazie, ero già pronta a lamentarmi che l'asta non fosse stata alzata, perché a me nella vita le cose non vanno mai come me le aspetto. Tipo per stasera avevo preparato questa apertura pazzesca in cui avrei detto quanta gente, incredibile, allora l'ultima serata di merda non vi ha traumatizzato così tanto, invece no, in realtà non è venuto nessuno. Poi la seconda parte di questa apertura sarebbe stata con me, che dicevo che appunto la mia vita fa schifo e che proprio per questo venivo qua, perché così avrei potuto avere la vostra approvazione sociale, vi avrei chiesto un applauso, mi sarei sentita approvata socialmente, ma insomma... Stasera non mi presento nelle solite vesti di brillante stand-upper, ma nelle vesti di ricercata poetessa, anche se le vesti effettive sono quelle della stand-upper perché non ho altri vestiti. Mi accingo a leggere. È una poesia sulla gratitudine. Grazie. Ricevo con gioia sincera le righe tue scritte, non ora avvergate, ma giorni addietro composte. Per tutti, a me non pensavi. Grazie. Qui sola al mio desco, sommersa di carte, di conti e di cazzi, anche amari, va detto, penavo, ero triste. Adesso che leggo le tue frasi solerti, affettate, assertive, la pena trasmuta. Ai conti e ai cazzi il rancore si unisce. L'invidia pervade coglioni già pieni d'estate e di gente in vacanza a te pari, bastardo. Ma grazie per farmi sapere che alla fine del mese, dopo 6 settimane d'assenza, rientri. Per farmi sapere che fino ad allora la posta non vedi. Per darmi conforto annotando che al tuo rientro risposta darai. E che se il dilemma mio è urgente, al tuo assistente rivolgermi posso, sicuro, come se quello al suo desco talvolta ci fosse. Giammai lo trovai in gennaio, febbraio, marzo ed aprile, maggio, giugno, figurati, in luglio e financo in agosto. Mai mi rispose in settembre o in ottobre, in novembre, dicembre, mai fu presente. Ma oggi è urgente, davvero. E mentre da sola in ufficio mi strazio, la mente mia vola e le mani la seguono. Compongo il tuo numero, stronzo. Sei in ferie? Perdono, domando, poi sparo il mio colpo. Ti sento accigliato, la fronte aggrottata. Sarà per il sole o perché devi lavorare, infame? Grazie, ti dico alla fine stringendomi i denti, lo senti il mio odio distante che accorpa i ricordi di tutti i lavori che col culo facesti, lasciando me nella merda a nuotare, altro che al mare. Non dico ma penso che 6 settimane in giorni feriali sono 30. Non parlo ma penso che pur nella stessa azienda e con uguale contratto, come cazzo hai fatto a riuscire a stare ogni anno oltre un mese sui lidi d'estate e d'inverno una settimana in montagna? Non chiedo ma penso a chi regali del sesso orale. Anch'io di leccare e succhiare ti giuro che sono capace. Su quale genitale dovrei far scivolare la bava, zio cane? Intanto Tu a Natale in Egitto, 8 giorni, a Carnevale tra le calli, 3 giorni. Non dico, ma conto anche i ponti dei morti, dei santi, liberazione 2 giugno, un omaggio patrono Immacolata, Assunta e Pasquetta, l'ho messa, Pasquetta, ora basta, la smetto, scrivimi ancora lo stesso messaggio, lo aspetto. Grazie. Io, come vedi chi manca? Chi manca? Dai, Enrico, non vale! Vieni qua, tu, Enrico! Chiudiamo! È un onore per me. Con te, insieme no, a te. Vuoi fare il tuo pezzo o chiudiamo? Tutte e due, tutte e due. E io cosa faccio? Tu stai qua, tu stai qua, tu stai qua. Cosa urli che c'è la gente che dorme? Il mercato è diventato sto posto ormai. Io mi, dai, metto, io dai. Mi metto di fianco, eh? Mi metto qua di fianco. Qua. E ti guardo. Siamo arrivati alla grande attualità di 7 anni fa di Enrico Veronica. C'è chi dice che io faccio il pezzo La grande attualità di 7 anni fa per riciclare del materiale antico. È vero. Perché io considero il pubblico un po' come Frosinone. Voi sapete che a Frosinone le mode arrivano dopo, no? Cioè il ballo dell'estate scorsa, lo sapete, no? È stata la lambada. Frosinone impazzisco, fai pananana, impazzito. Oh, Fadenti, vieni qua. Dobbiamo chiudere. Ah no, quello è andato. Vieni qua. Parliamo dell'orgoglio queer. Dov'è? Eh no, perché parliamo del nostro orgoglio queer. Allora, io e Valerio, possiamo dire, siamo dei queer. Certo. Ora si chiamano queer. In realtà è bella sta cosa che ho scoperto di essere un queer, no? Perché in realtà era più lungo per me. Io lo chiamavo, ah vabbè, mercoledì notte, sono ubriaco, cazzo, figa, chi se ne frega. No, cioè, no, sta roba del queer mi ha aiutato tantissimo, cioè, hai capito? Cioè, era lunghissimo, no, nel discorso. Sessualmente, ma è mercoledì sera... Sono ubriaco, cazzo, figa, alla fine è uguale, no? Ho scoperto che travesti anche. Ma ho scoperto queer, cioè sono queer. Che poi c'è l'orgoglio queer. Sicuramente c'è il queer pride, no? Solo che gli unici queer, cioè famosi oltre a me, del mio stesso, diciamo, categoria queer, cioè sono Pacciani e Vanni. Cioè, che loro sono, e loro un po' così... Cioè, più che omosessuali o queer, ma direi proprio dei... Direi dei... Bah, situazionisti del sesso. Possiamo parlare di situazionismo sessuale. E questa cosa dell'orgoglio queer in realtà mi ha chiamato molto. Vi ricordate che vi stavo parlando di Frosinone? Chi se ne frega? 7 anni fa, in realtà 10, hanno fatto, c'è stato... Tra l'altro, pensate che io l'ho scritto in effetti 10 anni fa e l'ho scoperto quest'anno, una battuta, perché c'erano i 50 anni della bambola Cicciobello. L'hanno festeggiata qua a Milano, penso sia nata a Milano, e ho scoperto leggendo un altro articolo dopo 10 anni che l'anno scorso erano i 60 anni della bambola Cicciobello. Molta felicità, anche un po' di preoccupazione. 60 anni, cagarsi ancora addosso... Si pensa magari, cioè, si pensa un po' a una demenza senile, comunque anche le bambole, però per dire, Sbrodolina. Sbrodolina che è da sempre collega di Cicciobello, cioè di lavoro Sbrodolina cammina, cade, si dimena e fa la bava dalla bocca, cioè ha le convulsioni di lavoro. Cioè, infatti anche lì non sappiamo se è semplicemente epilettica, nella migliore delle ipotesi, o è posseduta dal demonio. Non hanno ancora sciolto o scelto la prognosi. Sbrodolina messi i denti, Sbrodolina fa la cacca, E gattona verso al maligno e dice le sue prime parole: padre, prendimi, sono la tua meretrice. Paura, sì! Sconforto anche, ma anche tanta sana e bella umana soddisfazione. Perché un esserino, seppur così piccolo, di plastica e con gli sfinteri completamente andati, che riesce a dire la T dopo la R, beh, sono umane soddisfazioni. E pensate, quando mi dicono Henry Veronica, vai a fare il repertorio, cioè, queste sono le cose che riesco a dire. Molti di voi diranno, no, dai, speravamo tu l'avessi inventato. No, invece no, sono cose di 7 anni fa. 7 anni fa, tra l'altro, era in voga una strana polemica che adesso, dopo 7 anni, e ci ricolleghiamo all'orgoglio queer. Ragazzi, tutto questo con la cervicale, non è vero che c'è, guardatelo qua il cerotto, è verità, è verità. 7 anni fa, chissà perché, serpeggiava già la polemica. La Barilla, senza che nessuno avesse chiesto nulla, aveva detto a un certo punto, magari qualcuno lo ricorda, non faremo mai spot con dei gay. Cioè, com'è che era venuto fuori il discorso? Io mi immagino il CDA semestrale della Barilla a Parma con il signor Barilla a capotavola, poi tutti gli altri dirigenti, non so, il signor Rigattoni, il signor... E il signor Barilla che dice, vabbè, c'è qualche ordine del giorno nuovo? Si alza uno e fa, non so, se facessimo degli spot TV con dei froci... Perché sennò com'è che era venuto fuori? E qua c'è il grande inganno. Io non voglio fare la figura del solito complottista, non voglio. Ma forse la farò. Allora, chi è che ci dice che il primo mitico spot Barilla, quello che ricordano tutti, almeno quelli nati almeno dopo il 1984, sono in pochi, quello... ve lo spiego. Era uno spot strappalacrime. C'era questa bambina con la cerata già. La cerata è una giacca a vento da barca. No, perché bambina la cerata è fuorviante. Uno pensa subito al Vaticano. No, no, no. Emanuela, dove sei? Non c'entra. Emanuela, cioè, Ratzinger, buonanima. Sappiamo. Santo subito. Allora, c'era sta bambina che usciva da scuola con la cerata gialla, pioveva di rotto, la musica serpeggiava, trovava un gattino, e allora salvava il gattino, e si attardava, la famiglia disperata, la famiglia preoccupata, io ancora adesso, cioè mi sveglio madito nel cuore, la bambina, il gattino, disperato, la famiglia disperata. Poi lei telefona, non so se vi ricordate, no, non ve lo ricordate, come erano i telefoni all'epoca. Cioè all'epoca per chiamare c'era la rondella, tacca, tacca, tacca, tacca, tacca, che doveva fare tutti gli scatti. Tacca, tacca, cioè dovevi fare il 9, tacca, tacca, tacca, 9 scatti dovevi aspettare per fare il numero dopo. Pensate che non esisteva il 118, l'ambulanza si chiamava al 27.000, 27000. Ma quanti amici miei hanno trovato gli ambulanzieri morti con ancora il dito nel 2? Quanti? 12! Non è una domanda retorica, 12 angeli volati in cielo che non torneranno mai più. E la bambina col gattino. Ora torniamo all'argomento di prima. Sì. Chi è che non ci dice che quella bambina era il 1984, senza offesa, non fosse una cazzo di lesbica? Io non... Cioè, perché la faccia ce l'aveva, adesso io... Dai, un pochino, sì, dai, senza offesa, Cioè, senza offesa, cioè... E il gattino? Conosciamo tutti quei problemi di orientamento sessuale che hanno i gattini nei primi... vedi, tu annuisci perché lo conosci. Che si infilano di tutto per via anale. Tu si infilano di tutto nel buco del culo, no? Cioè, si chiama fase anale felina, la conosciamo. È la FAF. La FAF. La FAF. La fase anale felina. Ma Che poi io lo so perché ne parlava, come si chiama? Quella che faceva Licia Colò. Ah sì, anche lei l'ha fatto. Ne parlava Licia Colò, l'ho visto in TV. No, ne parlava infilandosi un gattino nel culo. No, aspetta! Perché nell'Homo sapiens la fase anale felina si conclama così, dei piccoli felini per via rettale. Sì, ma cosa dico queste cose a voi che siete antropologi? Che le sapete meglio di me? Ora vado a chiudere. Ma anche no, ma volendo. No! Lo so. Ragazzi, io la mia letteratura è così squalida, triste, orrida, sconfinata, che poi basta darmi un argomento. Se voi mi date un argomento, io non ce l'ho. E quindi vado a concludere sempre con le solite battute. Ma posso lanciarti una sfida prima che tu chiuda? Così diamo anche un messaggio ai nostri ospiti. Se mi vuoi sfidare, io sono qua. Non ti sfido questa sera. No, aspetta. Ragazzi, c'è rotto, c'è non ti voglio sfidare questa sera, Enrico. Voglio solo far sapere al nostro pubblico che da quest'anno, da gennaio, oltre a fare le serate brutte persone, una volta al mese faremo anche la serata in cui, se un comico o un paio di comici vogliono esibirsi e fare molto più repertorio, possono farlo. Una volta al mese, come le mestruazioni. Esattamente. Tu potresti essere le mestruazioni di questo locale. E ti lascio chiudere. Io... Sapete che le battute... le interpreto molto. Tesoro, ma i nostri figli sono gemelli siamesi. Ma no, dai, ma che cazzo dici? E allora guarda che si stanno inculando. Signore e signori, come Obama, come Kobe Bryant, il sequestro di persona di questa sera è finito. Eravamo in due con due microfoni, sono rimasto da solo con due microfoni. Che vi devo dire? Grazie Alex Alge, grazie a tutti voi. Ci vediamo il 20 novembre. No, il 20 novembre, mia madre. Il 20 gennaio. 20 novembre. Esatto. Venerdì 20 gennaio siamo qua. Grazie a tutti. Buona serata, buonanotte.